vado a fra poco, che sta, su là. Parlate bene, aiuto. Sono io. simili a bestemmie che a te. E compagna di Franchetto e di due che stanno parlando a voce bassa, si capisce chi sono. Ma come? Questo sta lì. Ma vi c'erano casi in base. Voi. Ah, ma su che cazzo. Ciao. Ciao, Bulldove. Ben entrato, ben ascoltato. C'era gente che ha detto che se si stava a costruire la casa ha chiesto il mutuo, che è tutto quanto distrutto, quasi finita. Non veraci però, cazzo, mamma mia, non deve essere una cosa molto bella. Sto vedendo, ma io ho visto proprio come è successo, la terra si svuotava sotto, cazzo, come se fosse bambino, si svuotava e scendeva. E invadeva tutto quello che trovava, case, si portava tralici delle cavolo, qua una cosa allucinante, una cosa sembrava un film di fantascienza. Perché poi contro la natura così non ti puoi neanche mettere, e con cosa la ferma una valanga? Quello è. L'unica cosa, non è cavia di scappa, ma comunque tutta la natura di detriti, tutte le cose le appare a fermare, macchine e quanto c'era. È un casino, veramente, cazzo, guarda, quest'anno l'ha preso in doma a fare tempo brutto e l'ho venuta di là, ma non è solo qua, è da tutte le parti. Sì, dice che siamo gli unici noi, che ce la siamo scappati, e poi un'altra regione, mi pare che sia la Liguria, una cosa del genere. Siamo in due che ci siamo scappati, due regioni, non è detto che non succeda qualche cosa anche qua, ha detto, quello della protezione civile. Ma io spero che non succeda niente, poi contro natura non ci possiamo andare, quindi già, quello vuol dire già. Erano tutti fuggendo in mare, cazzo, una cosa allucinante, scappate, correte, ho visto proprio la valanga scendere. Ma io me l'ho fatto vedere anche in televisione. Sì, in televisione l'ho visto, cazzo. Una cosa tremenda, come gli uomini erano come formiche con fronte a quell'involucro di cose di terra, di cose di fango che era valendo. Avanti, Falche. È impressionante, io ho visto una cosa impressionante, veramente. Sembrava proprio un film di fantascienza. Era impressionante a vederlo, guarda. Un film di Borno, Maria. Sì, altro film di Borno, Iulia. Ovvero me. Ma già, ma che apparato stai usando? Galaxy. Cavagliaro. L'altro giorno ti ha cambiato totalmente. Beh, l'altro giorno stavo usando... Comunque te lo posso far sentire, quello che stavo usando l'altro giorno, con l'MP5. 48. 48 plus. Cambia da giorno alla notte. Con l'MP5 cambia un bel. Microfono normale, li fanno così, se la misano, si mette in questi cazzati che fa degli apparecchi, ultimi, però si perde microfonia con gli splatter che si ricevono. Quello, lì poco fa ero su YouTube e stavo ascoltando il BSX così modificati, escono una bomba comunque, però quelli fatti su Sicilia, quelle zone lì, c'è quello con la bandiera americana che è allucinante. Ah sì, sì, l'ho visto. quello lì, poi c'è anche quello che ha fatto Follia Elettronica, l'hai sentito? Sì, li ho sentiti un po' tutti, già, mi stasera mi stavo passillando così, c'è anche quello di Franco Buera, che ho sentito Magno Senove, ci sono questi Cobra che sono allucinanti. Cobra, che sono parecchi, ma io stavo per prendermi il Cobra, poi ho mollato. Che male, un rapido, cazzo, ce n'è uno che è bellissimo. Tutto su un verde particolare, eppure di notte con il frequenzio tutto acceso, con tutte le bande, ma è una bomba, è troppo bello. E Cobra, se non erro, esce con 100 watt. 130. Fate un conto. Ma è bello, c'ha 10 bande. Lo so. Ma non è più bello delle S9, Non lo so, no, già. Io così non l'avevo mai visto, cazzo, mica è bello veramente, così bisogna vederlo vicino già, perché addirittura questo qua è stato modificato, capito, questo Cobra, c'ha tutti i pomellini, tutti i colorati, capito, color bianco addirittura, cazzo, di notte, guarda, se lo fanno vedere di notte, cazzo, è troppo bello. Adesso sono trasparenti, diventano azzurri di notte, ci sono anche per l'Alan 48 di quelle manopoli lì. Ho visto, ma non mi piace più di tanto, secondo me l'Alan 48 è bello così già, color blu e basta, ne ho visti tanti colori, secondo me il blu è quello che li si afficcia di più. Sì, il rosso non mi piace, l'arancione non mi piace, sì è vero, il blu è il colore che li si afficcia di più, è vero. Cioè io ho visto quel ricorso che ha fatto Franco Boomerang, è tutto rosso, quando muore si accende di blu, non so se l'hai visto quello. È piccolore, quello piccolore, sì. Mi piace di più un colore sole che sia il blu, vabbè che sono fanatico del blu. Abbiamo fatto anche, abbiamo messo le lucette qua dove modulo per la notte. Ma perché allora non la fai una foto di notte e la metti su Facebook, visto che ancora neanche l'amicizia mi hai dato, bravo, sì. Massimiliano, ti devo dire una cosa, allora, abbiamo un computer che praticamente vuole tutto riformattato perché è bloccato. L'altro lo stanno usando in due e quindi mi dovrei affannare per usare il computer, perché già tra di loro mia moglie lo usa, Manuela lo usa perché va su Facebook, e quindi devo aspettare sempre la notte. Siccome io devo cambiarmi il nick, mi voglio mettere con un altro nick che non sono riuscito a farlo sinceramente. Ho capito. No, perché ho visto che c'è tua moglie, vabbè, tua figlia non la conosco, quindi ce ne sono diverse. Non l'ho mai vista, quindi non so neanche chi sia. Tua moglie l'ho vista, sicuro. A te ti ho visto con le cuffie nelle orecchie. Però io infatti ci avrei messo Gianni lo più rum. Dimmi come fare a cambiare il nome, non me lo ricordo io come si fa. Ti fai la registrazione e poi cancelli. Io prima ero Massimiliano Bulldozer e adesso mi sono messo Massimiliano col mio cognome. Ah, ma su Facebook? C'è una ruspa disegnata. Ma io lo sai che sono entrato, io sono riuscito a entrare nel sito praticamente quello che ha creato Pierpaolo. Ho Ho visto tutti, mi sono visto i filmati di coso, come si chiama, di Paul De Santi, mi sono visto tutti quelli che c'erano, però a te non ti ho visto. Già c'è una ruspa disegnata, guarda, non sbagli. Tu già lo sai, il mio cognome, quindi ci sono solo io. Come Massimiliano poi ci sono solo io. Cos'è ti volevo dire? Adesso si è aggiunto Piero Mecchei, Yuri Cicciobello, si è aggiunta un casino di gente. Lui mi ha guardato anche il video che ha messo Piero Mecchei. Però Gigi Vulcano ha detto che c'è, ma io non l'ho più visto. Io tutti visti quelli lì, ho visto il camion, tutto quanto, ieri sono entrato apposta per vedere, stavo cercando di mettere, vabbè io asco, faccio una cosa, vi chiedo l'amicizia, entro così e buonanotte, non riesco a metterlo, la verità. Ma cosa devi mettere? Tu una volta, ma tu ci hai vista come cosa? Ehi. Quando tu sei sul tuo profilo, non so, sulla tua home, vai, quando vai a cercare il coso, come si chiama, metti CB, K, passassene, te lo da subito, anzi io addirittura schiaccio la C e basta, e me lo da subito, e ci clicco sopra, poi vai e chiedi l'amicizia e te la conferma Pierpaolo. Ma non è quello il problema, quello lo so come fare. Non so come cambiare il nome, perché io mi volevo cambiare il nome, capito? Ah, ti volevi proprio cambiare il nome, già, e lì deve entrare modifica, password, quella roba lì. Vabbè, entro lì e basta, aggiungo un preso, non è... Perché bisogna mettere il password, bisogna creare una nuova, io ci stavo provando ieri. Dovevo creare anche una nuova email, e quindi è tutto un bel casino. Vabbè, se l'email ce l'ha, ormai ce l'hai da parecchio, come lasciate quella, però senza cancellarti già, ti puoi fare un'altra registrazione con mettere un esempio Gianni Doppio Room, capito? E cioè sia una che l'altra, perché io ho per esempio Massimiliano Bulldozer e una, e poi mi ha messo anche Massimiliano e il mio cognome, hai capito? Cioè se tu entri e mi cerchi col mio nome e cognome mi trovi, se cerchi anche come Massimiliano Bulldozer mi trovi uguale, hai capito? Ma ti hai creato un altro indirizzo email, un altro password? C'ho due password diverse, hai capito? Una ne una e una ne ho l'altra. Anche Antonio, vedi, Antonio si chiama con il suo cognome e lo trovi, vai Antonio Bombolo e lo trovi uguale, hai capito? Però io ho cambiato le passe, sono due password diverse ho messo. E io volevo fare così, allora quindi io stavo andando bene. Io ho messo password diversa e anche un indirizzo email diverso. Beh, non me l'ha data. Mi ha scritto che non va bene praticamente. Vabbè, comunque, già ci tento anche stasera. Cosa stavo facendo ieri sera? L'avevo già tutto compilato. Vado ad entrare, non mi ha dato password errato. No, aspetta, mi ha scritto indirizzo email errato. Per forza, vai su email.it e ti fai un altro indirizzo email. E lui ti dice che è errato, ne devi mettere un altro che sia valido. E per essere valido ti devi registrare. Vai su email.it e ci scrivi gianni.room@email.it e reggai su conto. Però come ti sto dicendo io. Vabbè, io pensavo che potessi cambiare da lì tranquillamente. No, devi registrare un altro indirizzo di posta elettronica, che è la 245. Oh, Natalia. Oh. Perché tu come città hai messo Natale? Da dove? Quando entri in quel sito lì di cose di Pierpaolo, quando ci sono gli amici in comune, no? Ti scrive anche, hanno accettato l'amicizia, città, tu hai modificato qualcosa. No, io c'ho Sassari. Allora perché mi dice Natalino, ha modificato, adesso non mi ricordo cosa ha modificato, non me lo dà. Sassari ho messo. Non so cosa dirti, così c'è scritto e così ti sto dicendo, se no non te l'avrei detto. ti chiedono amici e poi ti futti. Già, tu lo sai cosa fai quando vai su Facebook? Tu prendi e ci metti il lucchetto, fai entrare solo gli amici e basta. Infatti, l'unica è quella. No, io ci ho messo il lucchetto, entrano solo degli amici e capito. Io quelli che ti chiedono l'amicizia, se vuoi che li conosci li fai entrare, se no no. E infatti bisogna fare così. E ogni tanto ci sono donne che mi contattano, come faccio? Dalle il mio nome e cognome. Vabbè, dai, facciamoci la per Falchetto, Falchetto. Ua, no, già se non ascolto, c'è problema, riprendete pure. Ehi, io non ascolto, Falchetto, ti sei abbattuto stasera, come mai? No, stanco sono già, stanco. Ma senti che cosa ci vuole per farti risvegliare, già lo sa. Ma ci mi dai più da risa? No, no, io niente, sempre a mani a mano. Paga. E vabbè, ti fa il caldo. Io ormai ce li ho tutte e due le mani, adesso sto provando col piede. Io invece sono in ferie, Massimiliano. Sei in ferie? Cappa. Una quindicina di giorni? Due settimane. Perché ce l'avevo dall'anno scorso, io gli ho detto di che non le volevo fare, ma ho detto no, fatele perché ne hai troppe. Meglio così. Ieri è venuto un ragazzo che si è preso un baracchinetto da Pompolio. Un Intec 390. Tanto l'ho già visto, è tutto dato bene attesolato, è tutto scacciavitato. Due, uno a carburo e uno a questo ragazzo. Anche a carburo l'ha venduto. Sì, due l'ha venduto. Infatti carburo l'ha gliel'ha fatto prendere a quest'altro, al mio vicino di casa, no? E se lo vuole mettere uno, c'ha un portatile questo qua, uno se lo vuole mettere in camioncino, il portatile se lo vuole usare quando va in barca, capito? Però ci vuole mettere l'antenna grande in barca. E basta metterci un'antenna marina. Infatti gli ho detto non metterci antenne nella 2001, roba leggera, perché tanto massa non ne ha, capito, è tutto resina e quindi non farebbe neanche massa. Gli ho detto ti prende un'antenna marina e fai prima. Alla GBC ce le hanno, le antenne marine della 27, c'è il cavo RG58 bianco. Infatti tanto non è che gli serve, vabbè magari d'estate lo usa parecchio perché d'estate magari anche che esce presto dal lavoro, si prende la barca, va a farsi una pescata, va a farsi un giro, capito? Quindi, ma l'inverno non è che lo usa più di tanto. Ok, dove? No, abita attaccato a me, vicino a me, capito? Di fronte a me abita. Infatti la barca ce l'ha qua. Ho detto quando lo vuoi ce lo facciamo l'impianto, ieri infatti è venuto e voleva un'antenna. Io gli ho detto, io la 2001 se vuoi te la do, ma a meno di 60 euro l'ho aiutata a donare, un giorno solo l'ho usato. Ma non se ne fa nulla, puoi prendere ruggine anche. Nel mare, Massimiliano, ci voglio quelle marine proprio, sono adatte per quello. No, la voleva mettere nel furgone, lui, capito. Ah, nel furgone. Vabbè, per il furgone già va bene. Già va bene per il furgone, però... Bisogna avessi compresso un apparato magari più bellino, più forte, perché arrivano bassini. Bassini, ho già, io ieri l'ho provato qua, 9 più 30 mi stava arrivando a casa di Roberto Quadrato. Cappabu. Uno arriva basso, ma chi è? Carburo che arriva alto, l'altro arriva più basso. Non lo so, io l'ho sentito scendendo a Trentino domenica mattina, ma comunque non sono entrato, era in BM e stava scendendo a Trentino, il carburo. E invece questo ragazzo ieri l'ho provato, mi pare che c'era anche tu, non stavo provando, mi ha detto 9 più 15, l'ho aperto, c'è il finale 19.69, quindi era intorno alla quindicina di fatti, capito? Kappa. Vabbè, comunque te sente che vada, no? Vabbè, comunque, gli hai spiegato sì della concessione, non c'è anche di svema. No, addirittura lui l'ha fatta giù a Cagliari, perché era un paio di giorni, lavorava giù a Cagliari, l'ha fatta lì e si è risparmiato anche 3 euro. No, faccio le 45, però io sono andato alle 45 qua, con culo suo, e non risulta di avere le 45. Chissà di anda. Magari sono assalti. Perché state in baracchino, non è che proseguivano, andavano a salti, capito? Ma prendevi due, tre canali in più di quelli altri. Gli ha provato, con la portante schiacciata già, un baracchino senza antenna e uno con l'antenna te lo deve dare nei canali alti, quindi non ci va neanche sotto. Comunque da. Oh già, hanno suonato qui che sto aspettando gente là, stanotte in cionfra. Vagava, c'è seminata. Una pizzata ci hanno organizzato loro, a me voglio dire, mi posso due spaghetti a Giulio. Tu sei amato, una curiosità, l'hai mai mangiata la pizza o non l'hai mai gustata proprio, è proprio una tempesta, perché anche io ero così col minestrone, dopo che l'ho assaggiato adesso sta cominciando a piacere. No già, io fino ai 13 anni la mangiavo, addirittura ci portava mio padre da piccolo così il sabato in pizzeria la mangiavo, poi me ne è proprio passata la gana, non mi piace più neanche l'odore sentirlo, capito? Se vado a mangiarla mi buria, cioè come i gamberoni, le ubiaghe me le ammazza a me, infatti io gamberoni non ne mangio. A me me l'ha fatto il moscato di sorso, io l'ho assaggiato appena ma buriato, tu dice mio marito me l'ha bussurato. È dolce, forse per quello, non lo so, non sono più abituato a bere roba dolce. A me il moscato rimane dolce, quello infatti vuole mangiare, vuole bevuto così la sera con qualche amaretto di saronno, di roba del genere, ma amaretto di saronno, con l'amaretto senza di saronno. E niente, così a me non mi piace la pizza, non ci vado più, una pizzetta la mangio meglio della pizza, una pizzetta già la mangio. Quella di via Rosello, che c'è il dopugone, quelle già mi piacciono, gli altri no, non ci vanno matto. Massimilia, sale via Grattatele da su, però non quella di giù, quella di su, gusta quelle lì, sono ben croccanti, perché sono buoni. Ma dove, dopo la chiesa? No, prima della chiesa, è molto prima, dove c'è la banca, ce l'è presente, appena più c'è un negozio anche di articoli sportivi, fucili, la roba da caccia, a fianco. Ho capito. Il negozio dei fucili lo so dove, vendono fucili, questori, roba, sì, armi e cose del genere. Quindi è attaccato lì. Lì che fa un bel buon. Ma a me piace l'ombre, poi ci mette anche un bel di mozzarella. E fa proprio. Io me ne sto prendendo due, tre la sera, invece di cenare mangio quello e sto dimagrendo. Vabbè, ma tutti i giorni quella roba non è che faccia tanto bene. Vabbè, ma quando torno a casa mangio un arancio, per dire così, per sciacquare dei minuti. Caro. Ok, dai, io per il momento vi saluto, se per caso riprendo dopo. Se no, un salutone a tutti, ciao Falchetto, ciao Attarino, ciao Gianni e tutti gli ascoltoni, dai. Io per il momento QRT, ciao. Ciao, avanti Falchetto, poi fa girare, c'è anche Nattarino e gli altri, dai. Salutoni Massimiliano, tutte le prossime. Buon correttivo per tutto. Avanti Nattarino per i saluti. Ci sei andato bulldozer? Ciao Massimiliano. Io sto guardando questa cosa in mezzo, Massimiliano, nel computer, ma è tutto a posto. Natali, dopo quando accendo te lo faccio vedere, leggo proprio cosa c'è scritto e poi se ci sei in radio te lo dico, ma se no un altro giorno che capita entro con la mia email e te lo faccio vedere. Ok, no problem. E dai, ciao, buonanotte. Noches, avanti che è rimasto. Buonanotte Massimiliano. E niente, è così. Anche a me piace la pizza, ma non tanto, non ne vado molto più di tanto. Perché tu non hai mai mangiato la corsara? Gamba di voce. Dì a Nattarino, com'è la corsara? Oggi sono ben beccato in casa, dove? Ma no, ci chiamano, ci hanno in mezzo, oggi mi ha fregato, si è ritratto prima, va bene, e io ce l'ho adesso. Avanti, signora, e poi il palco della notte. Aua, buonasera, Domenico, ben entrato. Grazie pure a lei, appena ascoltato anche stasera. Avanti, signor Dittalino, Dittalino, vieni avanti, fatela sentire. Ciao Domini, ben sentito, mi ascolti? Ti ascoltiamo signor Vitalino, bellissimo, partechiano, ne ascoltiamo. Calma, dai. Un attimo che io sono al computer, dai, vi prendete voi che sto guardando la situazione qua. Calma, va. Dove? Dove si arriva? Ah, dove ero ieri, dove mi hai chiesto ieri sono adesso, ti ricordi dove ero? Mi sa, saltato. Rotondina, prima di via d'Italia, sempre qua, gira, gira, gira, gira, bingo. Vabbè, adesso ti ancora tra parecchio, meglio, metti se ti arrivo comunque. Allora, le bombarde stiamo andando. Positivo, città delle bombarde, come il solito della polverina, in ambio, sempre direzione lì, ande e torre, eh? Ande e torre, già va bene, va. Ma che ora scendi domani mattina? Non lo so se ne faccio più, questa mattina sono arrivato alle 4:10 da casa mattina. Dipende chi è che c'è da fare, capito? Oh, gappa, che positivo. Gappa, che positivo. E già nella palatina l'abbiamo messo. E prendete la domenica. Sì, che cambia l'apparato, cambia l'apparato. E montano i microfoni e quello. Quanti soldi. E dicono che c'è crisi, dicono che c'è crisi. Ma no. Oh, guarda che crisi. Già ci sono i soldi, dove? Io ce l'ho 20 anni, cazzo. 20 anni ce l'ho questo bambino. E speriamo che vengano altri 20, che rimane in pensione. Guai, ai, quello già va in pensione, tranquillo. Non sei arrivato da me adesso? Ma quasi per frente. Sto entrando nel tunnel. Ah, sta uscendo, entrando nel tunnel. Andà bene. Ah, c'è un frate, un po' beccato. Ulla, attenzione Domenico, se non si ascolti, capo. Buca Domenico, già. Via, magari vediamo dopo. Ma si è sentito per niente Giuseppe? Oh, io l'ho sentito Giuseppe. E allora sta mangiando. Sicuramente sta mangiando. Era in apparato con la figliola, capito? Era in apparato con la figliola, poi senz'altro starà caricando adesso. Andrà bene. Bene, meva. Bene, meva. Vediamo un po' se è uscito dal tunnel Domenico. Attenzione, Domenico, se mi ascolti, amico di Codata, ha passato nell'altra adesso. Poi ha entrato nell'altra, infatti già l'ha detto. Cabra, cabra. All'altra più corta esce subito. Natalino, riprendi. Al computer, Natalino. Sta cercando di rimorchiare, raga, No, sono su Facebook, ti sto dicendo, sto controllando quello che mi stava dicendo Massimiliano. Sta scherzando, mamma mia. Attenzione, Domenico, Tavranetto, se ascolti la doppio rucato. Mi piace. Ha avuto un errore quella. stasera ho sentito un attimino Domenico, bomboletta sta arrivando, e coso, come si chiama? E a te fa che, chi sei pure, avanti. C'è Gianni da Perù e da Torino. Vabbè, saluto a tutti, dai, ciao Gianni, ciao Torino, avanti prima Gianni e poi facciamo girare. Io non ci sono. C'è anche per Paolo, ciao per Paolo. Ciao, ciao. E beh, è Gianni, è Natalino. Gianni sta provando un altro canale. Andole, muchachos. È Natalino cosa sta provando? Ecco, mi sono entrato, dai. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao Gianni. Vediamo Domenico se mi ascolta. Avanti Domenico. Quanto ti arrivo, Domenichino, quanto ti arrivo con questa radio, K? Non devo cambiare il apparato, perché? La tua radio, mi ho ferito, molto più bassa la radio. Vabbè, l'altro giorno me l'hanno fatto abbassare, aspetta un pochettino, guarda un po' adesso. Va bene, dai. Comunque qua sei 9.5, dove? Bomboletta. Arrivando in quella zona, dai. Ti piace la radio, capo? Sia per Paolo che Gianni oggi. Bombardando, perché? Tu sei 9.25 con picchi di 9.30 e per Paolo è quasi 9.20, diciamo, aspetta, rifà un passaggio per Paolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sei quasi 9.20 tu. Ho pulito solo la radio e basta, era sporca. Così, devo mangiare. Vabbè, comunque, dai. Vediamo Falchetto, avanti Falchettino, facci sentire. Come ti sto arrivando con le coordinate? No, no, Falchetto qua, numero uno, number one, 9.30 Skimbos. Anda molto mucho, molto mucho. Vediamo se l'amico Domenico ci ascolta ancora. Avanti Domenico. Oh, tu non scendi, meno di 9.5, sempre 9.5 è spaccato. Non lo vuoi farci. C'avevo 5 matematiche e 9 ginnastica per educazione fisica. Così è. Più stai andando e più stai aumentando comunque, se deve essere stai salendo. Eia. Picchi di 9.10 in certi momenti. Va bene, per fare riprendita. Avanti. Che è? Chi è che fischietta? Lo senti già? Ehi, sono di splatter, No, non mi bagno di splatter, vabbè. Ok, vai per qua. Attento Pirino, ci sei. Sì. Ehi, Rome, me ne vado adesso. Vabbè, ma vai sei a casa tua o in macchina, in moto o cosa sì? No, adesso sono a casa. Stai spingendo allora, stai andando alla grande. 9.20 spaccato. No, ma dico, questa radio va bene adesso. Già, va bene, non è potente, come al solito per qua. Anche questa, questa è la 48 me. È sempre il vostro, È la 48 normale. Normale, curare i tancardi. Come che no, questo è normalissimo, ma la 48 puro candido. Ma con un qualche microfono potente. L'MP4! Allora non è normale, vai un microfono. aspetta Domenico, dai, che stava chiamando. Dove ci sei? Vai. Di 9. Dov'è? Ho capito cosa ha detto, stavo guardando il segnale ma non ho sentito cosa ha detto. Domenico, dove ti trovi? Alla salettina. E quale? Quale poi? Sì, è quale poi, sicuramente, perché c'è la salita dopo Sarcaccia. Ma sta sparendo in giro, non lo sento più. Già te credo che te sento adesso. E tu come mi ascolti, sembra bene? Vai Roberto, vai. Devo dire, batte di più l'altro, no, questo è più forte, questo baracchino. Lo so, però con l'altro va di più, arriva più forte l'altro qua. C'era Roberto? No, levava più forte, K. Come radio, come arrivi? Ma come arrivo? No, la radio è incomprensibile, capito? In due comunque. Dov'è la radio mia? Si avvicina al 5 o di meno? Sempre 9 più 5 qua, non sei sceso niente. Vediamo Falchetto, dai, vai, ci ascolti a Falchetto, perché Falchetto è favorevole anche lui. Vai Falchetto. A tutto Domenico! Infatti ho detto, tu se ti metti l'antenna anche tu fai danno, non ci sono problemi. Ok, vai per Paolo, vediamo un po' quanto arriva per Paolo. Non ci arrivo io, no, per Paolo, non ci arrivo. Non ci arrivo. Per Paolo l'hai sentito dove? Per Paolo ti ha sentito Pio Pio, però non ha capito cosa gli hai detto. Comunque sempre, adesso c'è sceso un pochettino, 8, Bibbio di Plaghe, così hai detto. Allora, avanti Gian. È mo ha attaccato l'altro apparato, va. Domenico, come mi ascolti con questo meglio? Va. Avanti, Natalinos. Mirami. Capagabala. Adesso non mi sento più in cuffia perché qua non c'ho per l'ascolto, l'altro c'è per parlare ascolto. L'abitudine di sentirmi mentre parlo è grande. Dani, ma tu per sentirti in cuffia cosa utilizzi? Spiegami un po'. La spina posteriore dell'apparato dove c'è l'altoparlante, quello lì te lo attacca alle cuffie. K. Dove c'è l'attacco delle cuffie lo attacco. Siccome l'apparato c'è la parla ascolta, mi sento in cuffia. E non ti spacchi le orecchie così? No, basta regolare il volume. E se per sbaglio ti tocca il volume e uno parla tipo Pierpaolo? A me lo tocca un fantasma, non c'è nessuno qua. No, quando tu lo regoli giusto, più o meno te lo regoli al più alto, sempre, è normale che non hai sorprese, poi se tu te lo regoli al più alto, poi gli altri ti senti lo stesso, ma non hai sorprese che ti crepi i timpani. Eia. Vediamo Domenico se ci ascolti ancora. Avanti Domenico. Bibbio Funtanella, cos'è questo Bibbio Funtanella? Questo non lo sa, nemmeno io. Dov'è Bibbio Funtanella? O dov'è? Ehi, dimmi dov'è. Ho detto, dov'è questo Bibbio Funtanella? L'ho perso. Lo ascolta. Se l'ho notato quasi meno, cosa hai detto? Già, non ho capito. Non lo sento più io. Aspetta, dove ci sei ancora? Piccolino, ma già ti sento, Santiago 5 sì adesso. Te lo sento, ma bisbigliato. Ho capito, c'è una radio. radio ancora fortissima, nonostante che sei lontano, cacchio, il segnale si è abbassato parecchio adesso, 6, 5, 6, dai. Però la radio ti fa il risorto, dove? Molto, molto forte. L'ho dovuto sentire senza quell'effetto ecco, perché come ti allontani che si abbassa un po' il segnale, la ripetizione un pochettino ti stupia. Vabbè, l'effetto ecco proprio che te la fa sentire la radio. Sì, lo so, però è un bel fonte adesso, perché come si alza il QRM un po' si ti amplifica anche quello. No, è una prerogativa di quegli apparati. Quegli apparati lì, quando tu sei lontano, arrivano forti in radio, bassi il segnale, ma la radio è sempre forte. Aspetta, lo sento. Ancora dove? Ci sei? Ti sento basso, perché c'è il QRM abbastanza alto. Comunque riesco a, più o meno ho capito quello che hai detto, ora mi stai sentendo appena appena. Dai, ci sono anche gli altri, facciamo girare. C'è avanti. Vieni, non riprendi. Guarda, no, io non riesco a tirare fuori, manca appena appena, manca un sospiro. Quella zona per me è negativa. Poi ho un goccetto, sì, un tantino, sento bisbigliare, ma non capisco cosa dice. Cos'è per fa? Che Roberto è più in alto di noi, è per quello che riesce a prenderlo dall'alto, per forza va bene. È quello che sto dicendo io, quando sono io a Sassari in Vienno col Treassi, se lo sento praticamente da Marcumelia, mi ha avuto il tempo, anche quelli che sono qualcosa di Uglia, però la BM aspetta, lo proviamo a rilanciare. Domenico, ci ascolti ancora? Attenzione avanti. Non so se mi sta ascoltando. Beh, se mi stai ascoltando, io non ti sento. Un'ultima prova, vediamo un po' se ci ascolti avanti. Beh, se proprio nel fondo la sento, bassa, bassa, bassa, però non riesco a capire quello che mi stai dicendo. Magari sei in un punto un po' negativo, non lo so. Vediamo un pochettino se tra qualche secondo riusciamo a sentirti. Avanti di nuovo, se no proseguiamo noi. Proprio basso basso, dai, adesso sto iniziando a perdono anche io. Vediamo Falchetto, dai, avanti. Ehi, allora, no, io non lo sento più, sento che sta parlando, ma lontano, lontano, lontano. Io che ha parlato già con quel baracchino nuovo, te l'ho detto? No. Allora, l'ho aperto per vedere che condizioni è, nuovo, nuovo, c'era un po' di polvere dentro, l'ho soffiato in officina, nuovo fiammante, non è stato neanche manomesso niente. Siccome c'è il connettore a 5 puli, li voglio mettere, mi ho fatto la GBC e mi ho comprato il connettore a pannello a 6 puli, in modo da utilizzare tutti i microfoni che ho, in modo da non avere problemi con lo stesso. Cacchio, non sai quanti fili c'ha questo cavolo di connessione? C'ha 6 fili, allora sono 2 collegati insieme, gli altri 4 sono separati in ogni punto, e poi ci hanno messo 2 condensatorini piccolini a disco, a ponte, ponticellati, deve essere per i rientri per radiofrequenza. Prima di far danno lo faccio vedere a un amico domani. Infatti, sei così complicato. Ascolta, perché non te lo metti a 4 che è universale? Nei microfoni a 4 li trovi più facilmente, Robè. Rinuncia al up down. Vabbè, lo sai cos'è già? Ci avevo pensato a quello lì, per utilizzare anche il TAN e cosa. Siccome c'ho quei microfoni originali della Intec, ne ho 2, con già cablati a 6, mentre a 4 c'ho solo l'M93 della LAN48 e il TAN, l'MB più 4, l'MB più 5, non me ne ha fatto nulla. Volevo usare anche un microfono da palmo quando me lo porto giù, ce li ho già cablati a 6 puli, per cui lascio stare quello. Scappa, se no ti fai una lunga che parte a 6 e finisce a 4. E infatti ce l'ho io già pronta per il patch, per quando lo provavo con altri microfoni a 6, ma sinceramente non me ne ho fatto nulla. Ci metto quel microfono, ci metto un M93 che ho io a 6 puli, e poi voglio provare quei 2 Intec da tavolo, l'M600 e l'altro l'MC60 mi sembra che si chiami, sempre della Intec. Paga, paga. Ma l'M600 se lo usi dall'AME non c'è problema. Voglio prendere, mi sono voglio togliere la soddisfazione di farlo funzionare questi baracchini, perché sinceramente sono ottimi questi Intec di ricezione, almeno con l'altro che c'è una bomba di ricezione è fenomenale, però di radio va di schifo. Questo sembrerebbe un po' meglio, almeno mi avete detto, però se va male, io voglio cercare di trovarci un mio microfono, vada bene. Poi vediamo, c'ho sempre l'SBA io da provare, che c'è da fare la modifica, devo trovare il tempo di farlo vedere a qualcuno. Che è avanti? Franco. Ok, va bene, Franco. Allora, l'ultima chiamata Domenico, se mai è in posizione più favorevole, se no blocchiamo con lui i collegamenti. Domenico, se ci sei, fatti sentire, avanti. No, Domenico, non stai parlando ma non ti capisco, sento appena, ma proprio in lontananza, non riesco a capire. Qua per l'amplificatore non le posso neanche attaccare, nell'altro magari sì, ma ci vuole un po' più di tempo. Dai, ti saluto Domenico, se mi stai ancora ascoltando, dai, e ci risentiamo in migliori occasioni. Ti rilancio anche a Gianni, così si riesce a sentire anche a lui. Avanti Gianni. Sì, ciao Domenico, dai, buon continuo voyage alla città dell'amore e buon rientro, dai, ci sentiamo, buonanotte. Andiamo bene, dai, ok. Però cioè, è un bel pieno, ti stavo dicendo già, questo baracchino, se lo vedi aperto ti muore, rimane in campo. Non l'ho mai aperto, anzi no, sbaglio, l'Intec l'aveva aperto l'altro. Però è tutto digitale, c'è un sacco di componenti, come si chiama? Fanapoli, di circuiti integrati. Questa invece è tutto roba, c'è un sacco di trimerini, cagattine varie, relè, cose, diciamo, si vede che come concezione è molto più antica. Però c'è un bel trasformatore grande dentro. La decide, è aumentata. No, non ho toccato niente, non so cosa toccare, non tocco nulla. Vorrei mi sistemare, però non tocco niente, vorrei trovare lo schema elettrico per regolare un pochettino lo smitter, perché in FM va bene, ma in AM mi sembra un po' restio, diciamo, avaro. In quale senso? Segnala di meno di quanto dovrebbe segnare. Ma ce l'ha interno? Che cosa? Lo smitter? No, lo smitter lo fatto, dentro ce li ha. Sì che ce li ha, no, ma quello è bello, c'è anche un bello smitter, bello grande, ma quello è, mi sembra, aspetta, è uguale identico a quello del coso. Aspetta se c'è anche le stazionarie. Sì, c'è anche le... Allora, uno, due... Sì, c'ha le stazionarie e il wattmetro c'ha. Del coso, mentre l'altra stazione c'è anche il modulometro, l'altro che c'ho più. KK. Vabbè, fotografo, però fammelo vedere. Sì, è che l'ha colto da coso, ci siamo sentiti un tipo veramente in gamba, da questo tipo, l'ho sentito oggi per telefono, veramente una bravissima in gamba, un piacere infatti conoscerlo. Gli è rimasto il BV131, lo saranno 65 euro, ha detto nuovo, dice se c'ha 2 ore di vita di trasmissione è troppo. Quanto lo stanno? 65. Sì, metto nuovo e qui c'è un preamplificatore di antenna col modulometro della ZG. No, ZG non servono le amplificature. Il V131 se lo dice HP2 se lo compra al volo. Basta diglielo, c'è un numero di telefono, ma ti sto dicendo, una persona veramente mi ha mandato il messaggio telefonico, si è preoccupato, mi ha detto le coordinate del pacco, subito immediatamente, guarda, ci siamo sentiti il mercoledì mattina con questo qui, già, per dirti la persona, e dopo 10 minuti mi ha mandato il messaggio, mi ha detto, ho provveduto a spedirti il pacco, come convenuto, non ti faccio pagare le spese né niente, le coordinate del pacco sono queste. Purtroppo siamo in Sardegna, prevedeva in 3 giorni, invece è arrivato di lunedì. Paga. Beh, in effetti diciamo che di solito mette 3 giorni anche in Sardegna, io ho ordinato parecchia roba, mi è arrivato in 3 giorni. Diciamo che quando hanno tardato un po' è perché dovevano fare lavori, eccetera, eccetera, perché quando ordino la telecomunicazione mi mette anche lo spinotto e... E lo dici perché apparecchio ti lo vuoi e te lo piazza già senza pagare nulla. Gianni, allora il posto te lo fanno arrivare puntuale, il problema questi corrieri SDA che sono affuttini, perché io ti posso garantire, è capitato anche a me, il pacco era fermo buttato, un apparato che stavo aspettando, che poi ce l'avevano fermo loro, alla fine ho telefonato, no, ce l'abbiamo qua, cacchio l'ha riviso da 2D e ce l'avevano fermo loro. Perché loro molte volte dice che me lo fa fare a venire in quella zona lì per un pacco solo, aspettano che ci siano altre cose e fanno tutta una consegna. A me un pacco spedito il mercoledì sera alle 6 mi è arrivato il venerdì mattina già, sono rimasto a bocca aperta per dirti, sempre con quel discorso là dei corrieri, se ne hanno voglia già te ne mandano in fretta, se no sono affutti. E magari anche la mole di lavoro che c'era, tante volte non pensiamo male, ma magari anche la mole di lavoro che magari non ce la fanno a smaltire. Infatti magari il corriere, quello, il tipo che ti consegna la roba, di sabato non aveva voglia consegnare, dice, ma dammelo un po' di fa, me li consegno lunedì. Infatti lunedì alle 8:30 era già in officina a consegnarmi il pacco. Non penso che sia arrivata alle 8:30, no? O di domenica. No, il sabato non consegnano, no, Rubè. Vabbè, consegnano già, se vogliono consegnare, perché io ho chiesto. Sino a Nigana, però, perché me l'ha detto, sì, già consegniamo il sabato. A me non me ne hanno mai portato, ha sempre scavalcato il sabato. Vabbè, comunque, in ogni caso, interessante che si è arrivato tutto perfettamente. Se si è tardato un giorno in più non fa nulla. Avanti, Pierpa. Il capo è positivo, no, anche a me. Non serve, già lavorano, già, però... Io se li ho, alcuni lavorano e fanno... I negozi fanno, non le fanno abitazioni. Infatti sono straordinari però per loro, io conosco molta gente, quindi se c'è Savino te lo dice che l'ha fatto per anni quel lavoro. Ma io conosco quello che ci consegna la roba di solito. E me l'ha detto, lui per esempio lui non lo fa, quello che consegna lì. Non lo fa, ma ci sono altri che lo fanno. Di sabato me lo consegnano l'abitazione, i negozi. E via dicendo, cose così. Non per dirti niente, ma sembra che sei fuori frequenza. Sono fuori frequenza? No, sembra, quando ti manca la batteria, che sembra che stai uscendo fuori frequenza, ti sento la voce un po' gracchiante. Non so, può darsi, ma fuori frequenza? Non credo, sono io un po' rauco. No, non ho detto che sei fuori frequenza, sembri fuori frequenza, tipo che c'è una radio troppo compressa, che c'è qualche cosa, vabbè dai, non diciamo particolari, dai. Sei un po' saturo. No, è proprio di quella roba, non ne ho attaccata, anzi, aspetta un attimino, forse, ecco qua, un pochettino troppo basso in watt, perché stavo dando 2 watt, adesso sono 3.5, ulla. No, ma non sto parlando di segnale, per pa, io sto parlando la radio, è un po' strana. Io ho qualcosa, mi sento benissimo, ma è sempre la testa. Non so, vabbè, vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno sul 21, attenzione al canale 21 che vuole entrare. Vabbè, dimmi se c'ho negativi o positivi, i picchi. Fissa, fai qualche fisco. No, sembra, non c'hai molti picchi, nel senso è molto stabile come segnale, però non mi sembra negativo. Vabbè, altra volta cosa vuole i picchi? I picchi e le pacche, insomma, dico, non torna indietro l'ago, no? No, assolutamente. Ma poi positiva, Gianni, come arriva da te? Guarda adesso, che non stavo seguendo, vai. Ulla! Da me sei stabile, Pierpa. Sei stabile. Stabile, quello è stabile, va bene. L'importante non ci sia, no, dice che è satura. No, è la tua timbrica di voce, Pierpa, è sempre stata così. È la tua timbrica, quando magari sei un po' alto, te lo fa. Ma è il tuo tipo di timbrica di voce, e tu lo sai benissimo che non è una voce chiara, ma ce l'hai corposa. No, se no stacchiamo questa, stacchiamo la 48, Per me va bene. Va bene, stacchiamo la 48, modificato. Guarda, io dico, muoio il su che vuoi, non mi interessa, per fare, se ti piace quella. A me mi piace quando esci con la radio normale. No, ero con la radio normale, mi ha detto che non andava bene. Chi l'ha detto non andava bene? Con la radio normale non c'entra niente, ecco, è nuda, mi sto dicendo. Ma questo è il canale del Diego. Robert, questo qui è il canale dove ci sono quelli che mettono l'eco. Come mi sapete che state contagiando anche a Coso voi, a Giuseppe? Senza lo tu che siamo di furia, mi pare che un po' tutti qua sono in carica. Nominami chi sono tutti, dai, dimmene qualcuno. Io, Bombolo, Pierpaolo, Massimiliano, e ce ne sono, non ti preoccupare, Saverio. E io ti nomino gli altri, quelli che invece non ne usano. Cosa ti posso dire? Falchetto, Capri, Salvatore Maestrale, Giulio Lollaro, Gio Maria, Grazia, vabbè, grazie a quelli che entrano poco, Natalino, poi Gavè. Gli altri li avete contagiati voi che non li avevano in questi vittimi, li avete drogati. Allora, Falchetto, Gio Maria lo usa, Falchetto lo usa perché c'ha 9.300 e l'avrà passato adesso, ma ce l'ha, ecco. Gio Maria lo usa perché c'è anche il microfono uguale a quello che c'hai tu. Ti smentisco categoricamente. Break da Bracco. Aspetta, un attimo, c'è stato un break. Avanti Bracco. Ciao, ciao Robby, come stai? Stai bene? No, stasera... Ciao Roberto. Ero fuori, da? Aspetta un attimino, c'è qualcosa che non va. Comunque, aspetta, ripasso il micro dopo, dai, fra... diciamo... Fai girare gli amici e poi mi ripasso il micro, ti devo dire roba. Ripeto, qua è la stazione Bracco. Ehi, abbiamo sentito. Dai, Gianni, avanti, che puoi riprendere il Bracco. Ma no, io non lo saluto perché ha salutato solo a te, quindi non lo saluto. No, vabbè, a me perché mi conosce, ha fa girare gli amici, l'hai sentito già. Avanti per Antonio. Gianni, non pensare che sia una persona maleducata, il problema è che non conosce a nessuno, conosce solo a me. Vabbè, uno per educazione, quando entra in un canale che ci sono tanti amici, saluta a tutti. No, ma se vedete, lui sta rientrando in frequenza, lui va su altre parti, andava almeno 20 anni fa, adesso sta di nuovo riavvicinando. Ecco, appaga. Avanti, Pierpaolo. Comunque Gianni, quelli che hai detto tu ce l'hanno l'eco, anch'io ce lo posso avere con quel microfono, però non è inutile averlo, poi non lo utilizzi. Luca mi sono dimenticato, Davine Ieti che non idratta. Luca, se un tempo ce l'aveva, tu forse non l'hai conosciuto, ma ce l'aveva. Io ho comprato io parecchio con l'eco. Sì, sì, non metto in dubbio, tutti ce lo possono avere, però utilizzarlo normalmente siete voi, 5 o 6 persone, non di più. Perché a chi piace, c'è chi piace, c'è chi non piace. Comunque io non ne ho, ecco, non ne ho. Beh, ecco, tu sei il primo che virà a Sassari. No, no, questo lo sbagli, non è ecco, questo è effetto elicottero. Vabbè, diciamo sempre sistemi diversi, dai. Ah, mi sono dimenticato che utilizzava l'eco, anche se un po' di meno adesso, Luigi, uno dei primi lo stesso che l'ha portato. Non è eco questo. Vabbè, sarà un effetto elicottero, ovviamente non vuoi chiamare, però sono effetti non naturali, là. Non è cosa nato così sul baracchino. Come no, non ci sono i baracchini che nascono così. Però questo ce l'ha per sé, non... C'era di natura, molti c'erano di natura, non il microfono ma il baracchino. Ci sono baracchini che ce l'ha, anche questo qua ce l'ha l'eco, vabbè non è inserita la scheda, però c'è il tasto eco e lo gerbip. Volendo posso metterci la scheda eco, ma non me l'ha futinuta, ci mancherebbe. Sì, vabbè, ma io vorrei semplicemente capire, no? Una cosa, che cosa ti comporta a te l'eco? Sentire l'eco, che cosa ti comporta? No, allora, io quello che o non mi sono mai spiegato bene o non mi avete compreso. Io ho detto, l'eco può essere piacevole, però io dico, quando uno deve uscire in radio, deve uscire nel migliore modo possibile, cioè avere la voce naturale, cioè deve essere perfetta, alta fedeltà. Che bisogna avere l'eco se siamo in città? Ci sentiamo tutti i segnali minimo di 9, per non dire 9.20. Che bisogno c'è di mettere un eco per deteriorarti la qualità della voce? Solo quello è il discorso. Poi, se voi vi piace, continuate a usare l'eco. Io ho sempre detto quello. Poi, fate quello che volete, non voglio essere il pasto al contrario. Oh Gianni! Eia! Sul sito, diciamo nostro, CBKK Sassari, c'è terremoto, c'è una frase proprio sua, contro quelli che non gli piace l'eco, facevo ben ridere. Ma io ieri per qua stavo cercando, ho detto che Massimiliano, stavo cercando di mettermi la nuova, di farmi la nuova iscrizione, no? Ho fatto tutto, ho messo l'email, diversa, eccetera, eccetera, non mi ha accettato l'iscrizione. Ma devi andare lì l'email e accettarla. Vabbè, comunque in ogni caso sono entrato ieri, ho controllato tutto, vi ho visto i filmati di Paul del Santo, ho visto il camion di chi sono, di McKinney, mi pare. Un po' tutto là. C'è Piero McKinney, come si chiama? Al Pacino, insomma ce ne sono un bel po' già adesso di fuori, ne sono abbastanza di fuori, però anche lì hai visto anche coso, come si chiama, Corpo Santo, ci ha messo i filmati nel suo camion, poi siamo fuori, che hanno fatto non dire molla, sì, prendere in giro, guarda, con la videocamera sul camion, fede non dire molla. Già stanno nascendo le cose simpatiche, Roberto non lo sa che c'è quello lì, State parlando? C'è, in pratica, abbiamo aperto un sito sul Facebook, si chiama GPKK Sassari. Vabbè, io Facebook non ce l'ho, non mi interessa, dai. Comunque c'ho mio nipotino, magari se capita, ma si chiama, devo scrivere GPKK Sassari, così. Ma se non mandi la cosa non è che vedi molto, Perché io l'ho lasciato aperto, ma visibile a tutti, però potrei, alle volte lo chiudo, capito? Lo chiudo, è visibile alcune cose e basta. E cosa c'è? Persone che conosciamo ci sono? Ma adesso questo qua l'ho fatto nascere da poco, diciamo, lo stiamo facendo nascere. Nell'altro che c'avevo prima c'avevo 343 iscritti, un po' di tutta Europa, dai. Addirittura, cavolo, qui è una cosa enorme. Sì, ci vedevi certe, c'era un camper, uno che aveva un camper con una stazione baracchino, base sul camper, era una cosa spettacolare da vedere, e c'aveva anche un camper. Figurati, nel campo non ne avevo mai sentito, non avete sentito questi baracchinetti tipo la 48 o cose del genere? Un fissato stesso, era molto sui baracchini, infatti ci aveva scritto anche che la, sul suo unico amore erano i baracchini, figurati. Avevo visto uno, un tipo, un CB che però si voleva prendere la patente era di amatore, su Roger K, un sito, c'era una stazione di CB, tu dovevi cosa c'era? Mi pare c'erano, non so se erano 47 o 49 baracchini, tutti collegati insieme, cioè c'era una maglia di commutatori dell'antenna, e c'era la stazione sua tutta illuminata, tutta in funzione, microfono era tutto alle parti, tu dovevi vedere che bella questa stazione, era tanti ripiani, però fatto bene proprio, in modo che i baracchini si stavano tutti bene, tu dovevi cosa va via in questa stazione? Se riesci a entrare, guardati quella stazione, l'abitazione che c'ha di un terremoto, c'ha di tutto e di più, cavolo, cioè cosa rimane? C'ha una sfilza di microfoni, tutti così, esposti, tutti attaccati, tutti in radio, radioline, una cosa micidiale, una bella stazione. Ma di dove è questo? Di Sassari? No, è siciliano, Ma deve entrare sul sito suo o su Facebook? No, su questo CBKK Sassari. Ah, tramite quello poi ti colleghi. Quindi sono tutti CB questi che si sono iscritti, collegati, dai. Allora, ci sono CB e simpatizzanti. Per esempio c'è Paul De Santi che è un simpatizzante di CB e c'è anche lui, e c'è qualche un altro simpatizzante e poi il resto sono quasi tutti CB. Nella discussione è principalmente le cose inerenti ai CB, comunque qualcun altro poi ci si diventa a mettere barzellette, qualche cosa, comunque la discussione è vedere, ci sono dei filmati di baracchini, ci sono foto di baracchini, di stazione, insomma un po' di tutto. E questo l'hai fatto tu da solo o insieme ad altre persone? Questo io l'ho preparato da solo, però io volevo coinvolgere anche qualcun altro con la password, che insomma nella discussione partecipasse anche lui, anche a condurlo, ecco, perché c'è anche una chat, tutto quanto, quindi si sta facendo una cosa carina, dai. E poi pensate, ma perché lo conosci per altre cose, si è inserito? C'è Capri 2 forse che sta chiamando. Avanti, ho sentito qualcuno, avanti, chi è? A Murales, chi sei? dove sei? Così ha detto il nome, Santiago 5 qua, Radio 3, non ho capito dove sei però. Non lo so se mi conti qua e via tutti. A Ponte Nuovo o Ponte del Rosello? Ponte Nuovo, Ponte Nuovo. Ma è chiaro, tu non stai uscendo sicuramente, perché se sei a Ponte Nuovo dovresti arrivare a Mammoletta qua. Che cazzo, guarda, e che? Sì, un attimo, è bello, l'estate stiamo parlando con un segnalino un po' bassino qua. E sta dicendo Giancarlo? Fuori, Giancarlo. Cos'è Giancarlo? E Alex, cosa Giancarlo? Ci ha detto Giancarlo. Ha detto Alex o Giancarlo, ripeti, scusa. Va bene, ok, dai. Saluti comunque Gianni, io ho capito Giancarlo, figurati, forse sono sventiata. Aspetta, c'è anche, vabbè, ti faccio salutare da Gianni, da Pierpaolo e poi facciamo entrare il break. Un attimino il break, vai Gianni. Ciao Alessà, ci sentiamo, dai. E vediti un'altra cosa che ti si tocca. E riprendi da casa poi. Avanti, c'è stato un break e lo faccio finire direttamente avanti, dai, che sta aspettando troppo, dai. Sono Bracco, saluto tutti quanti gli amici, anche se non mi ricordo i nomi di tutti. No, voglio dire qualcosa a Roberto, se, per non disturbare gli amici che sono in ruota, Roberto, se vuoi passare un attimino solo, è sul 40, ti rilancio il micro, salutando tutti naturalmente. Ciao, ciao, ben sentito anche a te Bracco. Vabbè dai, con la questi greca, siamo qua. Un attimino sul 40, scusate un attimo. Ma la lezione è servita. Ho detto, la lezione è servita. Cosa si mangia niente per qua? Arancio. Tu sei peggio di me, sei mangiato di arancia. Cappa di positiva, e che devo mangiare? Papà, me l'hanno portato queste arance sarde, piccoline e sanguigne, ma di una bontà unica, dolcissime, sono tarocchi ma dolci dolci. Mamma mia, quelli sanguigni a me, cazzo, me lo mettiate in bocca, mamma mia. Li sto cercando, non li ho trovato da nessuna parte quest'anno. Ce li hanno, lo sai chi? Te lo dico io, il mercoledì. In via Prunizzetta, dove c'è l'edicola esattamente, c'è quello spiazzo, lì arrivano dei tipi di midis che li vendono e praticamente si fermano lì, no, fanno la piazza, o il martedì o il mercoledì, adesso non mi ricordo. A me me li prende mia suocera, capito? Ma mia, quelli, quali sono quelli succhiosi bene, quelli... quelli con la porta fitta fitta. Allora, quelli che hanno la buccia fina fina e la porta fitta fitta, come ti sei disegnato tu, è da ambrosa. Sono piccoli come aranci, Pierpa, non sono grandi, però catta, di una bontà unica. Mamma mia, quelli mi piacciono un bel. Io sono un mangiatore di aranci, veramente. Io ci vado fino alla fine che ci sono aranci. Ci vado fino alla fine, sempre. Ma quelli sanguigni, cazzo, io sono poi quelli belli polpuri, chiusi. E io sono lo stesso, io sono avido di arancia. Adesso mi regolo, però prima, se mamma ne comprava 4 ghiri alla ghita. Sì, e ora ti conto, le prendo io. Io li mangio mattina e sera. Ma comunque, una notte di più, Quando arrivava Sino Salvatore, questo di Midis, ce ne regalava un chilo e mezzo in più ce ne metteva. Dopo che lo pesavano, li pagava e prendeva, amici amari, questo qui è omaggio, e li buliava. Poi fanno bene gli aranci, contengono vitamina, dice che tengono lontano il raffreddore, adesso mi chiedo poco comunque. Hanno la vitamina C per quella praticamente che c'è nelle medicine quando tu sei raffreddato eccetera eccetera, Metto con la vitamina. È normale che ti tenga lontano, c'è quel tipo di vitamina. Non sai cosa mi succede a me? Molte volte la sera, mi fanno molto calorie, mi sento caldo. E sai sì, perché? Perché ti aumenta la glicemia con tutti i zuccherini che ci sono. Praticamente è fruttosio. Allora devo diminuire da 4 a 2. No, io 4 no, io adesso ne sto mangiando 2. 2. Ma io gli poi dirò, ho mangiato un'insalata poi con mezzo panino. E poi mi sono mangiato 2 arance. Boh, non ho mangiato altro. Vabbè, signor, vabbè. No, io ho mangiato questo qua e basta. Vabbè, la dieta si deve fare. Molta verdura cotta sto mangiando, e quello lì mi riempie e non mangio altro. No, la verdura cotta fa uno strano effetto, Che ti intasa? No, no, ti fa sporgare troppo. A me tranquillamente, no, per a meno quell'effetto non me lo fa, è tranquillo, anzi, a me mi piace da morire, anche la verdura cotta, ci metto molto aceto, altro quanto mi piace. Ecco l'aceto, anche a me piace molto, soltanto che a me mi va di effetto. Vabbè, ti libera. Avanti, chi è rimasto qua? Roberto. Roberto è su 40. Non so se è rientrato Falchetto. C'è Giuseppe, non c'è Capridù oggi, ma come mai? Ma Giuseppe ci siamo sentiti fino a poco. Ci c'eri anche tu? Boh, e poi non l'ho sentito più. Ci sono. Avanti Antonio allora, con la buonasera. Stavi facendo la ricci di Bucu. No, ma mi ha fatto venire la grana, mi ha fatto venire, ma mi mangio l'aranto. Ci sono anch'io, C'è anche il Tattarino, avanti Tattarino. E magari, stavo al computer, già lo sai già. Sta continuando ad andare avanti. Sembra di sì. E come si chiama vado io adesso? Mi avete se ti vuole. Vabbè. Quello è da vedersi. Se ha voluto a te vuole anche a me, non ti preoccupare. Ma io sono più bello di te, cosa c'entra questo? A meno che ti piacciono i faccinetti. Hai indovinato proprio, Allora, è una negroide. Non sarà africano. Lì, pensano. Senegalese. No, è italiana più di te, è di Sassari. Solo che gli piace la sostanza, capito? Salino, pensami! Cappantugno, carissimo! Adesso vi chiedo se c'è un'amica per te e così facciamo il gioco delle coppie, cavagabaro! Ma Roger, mi sto mangiando questa arancia, la voglia ma... Ma sarà anziana questa qua? No, è giovane, invece non è tanto anziana come dici tu. Paga, allora hai fatto conquista. A me quelle anziane non mi piacciono. E cinquantenne, dai. Oh, cazzo che andà a 50. Paga. Beh, domani voglio vederla. Venga a casa di la voglio vederla. Pittina, sei curioso già, capita. Oh, te la posso far vedere nel computer, c'è la fotografia. Io sono un critico d'arte, posso anche apprezzare, no? E beh, certo. Guardare e non toccare è roba da crepare. Guardare e non toccare è una cosa difficile da fare. No, Mattarello, neanche la tocchiamo, neanche la sfioriamo, fregatene. E io me la fuggo, ma io ci hanno rubato a sacchi, io sono il Marpione, io lo so come Marpione. No, tu falla vedere a me che io neanche la sfioro. Se te mi fida ancora di manco. No, Natalio, sono neutro, Sono una brava persona. So rispettare, E ma di Gianni non mi fidanzai, è l'onfio, Isuga, è l'onfio. Lasciamo rivivere la sua storiella, aiuto. Dai, non interferiamo. Deve vivere la sua storia d'amore. Oh, scusate un attimino. Eia. Ditemi una cosa, sto uscendo di radio? Nessun problema, sentite? Beh, ti stiamo rispondendo, sì, sto uscendo. No, mi ha fatto spaventare, mi ha detto, guarda che non stai uscendo di radio. Vabbè, i problemi ce li ha lui, tutto a posto già, nessun gracchiamento, cose strane. No, non ti spaventare, Robert, ti sentiamo che sei agitato, non ti agitare, tranquillo. No, mi dispiace che faccia l'apparecchio, non vorrei cacchio che mi si crepasse questo. Vabbè dai, e comunque già io vi saluto anche l'altro amico su 40, perché adesso mangio qualcosa e poi vado a cambi. Chi c'è? Poi lo sento un attimino, mi sembra Natalino. Comunque saluto generale a tutti, cuoretti da parte mia. Ciao ciao a tutti e buon proseguo. Ciao Robert, buona mangiata, buona dormita e buon trabacco per domani. Ciao, avanti per Paolo Fecci. Ciao ciao Robert, ce la riascoltiamo alle prossime, buonanotte, buon tutto, vai Natalino. Capo, ciao Robert, alle prossime, buon tutto. Adesso non mi ricordo come era la rotta, chi c'era ancora. Vabbè, riprenda chi c'era dopo di me. Ma ciao Robert, dai, ce la risentiamo alle prossimine. Ciao ciao, dove eravamo rimasti? Per il Roma. E sono rose fioriranno. Gaffa. Allora, speriamo bene Natali, Ma sei sicuro, ma andrà bene, buona, sì. E non va bene. La città ancora non ci siamo incontrati, ci dobbiamo incontrare. Lei mi racciappa e la puoi disapprodire. Natali, mi aspetta sposarti che se non c'è solo. Ti aspetto, ma aspetta anche lì. Ma va, la macchina è netta, quindi si può fare l'incontro. L'incontro solo nella macchina, il resto lo facciamo qua, nell'altra stanza. Già. Ti correndo in poco, avanti. Avanti, avanti. Strano, ogni volta che arriva, cioè, siamo quasi, diciamo che siamo quasi in contrarestate, dai, perché adesso, ogni volta che siamo quasi in contrarestate, fa effetti strani, cara. Vabbè, non lo sai che si risveglia la natura, in primavera si risveglia la natura. E sarà così la tua. Secondo me è un letargo. Gli amori avvengono in primavera, sia degli animali, sia delle persone, sia degli insetti, tu non lo sai queste cose qua, non le studiate? No, mi interessa a me degli animali, no, io sono un umano, a me tutti i momenti sono quelli giusti. Cosa vengono adesso? Perché gli altri ti crescono diversi da te? Gli altri sono uguali, solo che in primavera si scatena la libidine. No, ti ha detto proprio di no, sarà a te così, a me non mi scatena nessuna libidine in primavera, a me mi scatena a dicembre, a gennaio, a febbraio, a marzo, sempre. Non ti si fa compagnia. Confermo, dai. Magari quello un po' più grande succede così. Natalino? Cava, io mi sento un friccico nel cuore. Ricompresuta, l'avete girata a modo vostro tutti i canti, l'avete compresa come se l'avete voluto compiermi voi. Siamo bastardi dentro e fuori, lo sai. A 360 gradi, cava cava. Pure devi dire 390 gradi, poi vedi se funziona o no. Ho detto che sono di quel parere. Io qua si scatena tutti i mesi dell'anno. Io non aspetto la libidine, la primavera, l'estate, anzi l'estate proprio se ne aveva la calmata, uno che ci sono gli infarti in corso per il caldo. Infatti. Dopo il quale devono aumentare le pastiglie. Mezz'ora sì. Gianni, poi tu lo sai che noi siamo bastardi dentro e fuori. Non solo, in tutto il corpo. A 360 gradi. Va bene. Prendetevi il Viagra, così vi funziona sempre. Non credo nemmeno visto, andare visto, Attento Giuseppe, tornare, ci sei, vieni fuori, Il Viagra serve solo per pisciare. Chi è questo qua? Chi è costui? Questo Viagra serve solo? Natalino, mi sembra aver capito che serve solo Natalino. Non appetiti lontano. Fa una cosa che a me non me ne serve di chissà roba. Cadì, e cosa su quello che c'è nel cassetto stasera quando te l'ha fatto la macchina col tuo furo? E l'altra volta c'aveva in tasca, c'aveva la gamba rigida. Solo perché ha piovuto. Capito chi era l'amico che ha parlato, avanti! Avanti l'amico con la buonasera. Beh, ecco un attimino, l'attenzione, riprendo io sono bracco, salutando tutti naturalmente. Io poco fa ero passato con Roberto sul 40, a un certo punto a Roberto non l'ho sentito più, le stavo dicendo che mi segnava lo smitter a fondo scala, però non si sentiva la voce. È probabile che quello che tratta adesso sia lui, non sta uscendo praticamente. Ok, rilancio il micro. No, Roberto ha fatto le prove con me, vabbè. Usciva benissimo. Adesso però, adesso è che non esce. Berto, se ne è andato. Era anche un po' preoccupante, era agitato, ci aveva detto che non uscivo. No, con noi, però ci credi per la te, non lo so. Io ero convinto, c'è sempre bracco che riprende, che era il mio baracchino, invece il mio baracchino voi vi state chiedendo, quindi non dipende certamente dal mio baracchino. Quindi ha avuto qualche problema di sicuro. E poco fa ha tentato di entrare qua perché gracida e basta. Ok, rilascio il micro e fatti girare. Cappa. Rilascio di tutto quanto a Natalino, va. Stavamo dicendo Natalino. Aspetta, facciamo una cosa, va. Mentre che di giamba discorso, mi avanti cappa. No, io vorrei rilanciare una persona che ha detto che Natalino va a prendere il Viagra. Non ho capito chi era, avanti. Scusa, ho fatto una battuta io, bracco, attenzione. Non ti sto dicendo, io non mi riferivo a una persona, ho detto che il Viagra serve a fare la pipì più lontano, specialmente perché c'ha una certa età, tutto qua. Ok, fai girare. Praticamente l'hai provato e non serve a nulla. Sinceramente a me non mi serve. No, scherzavo, era una battuta. K. Io ho visto un'intervista praticamente di questi attori porno e praticamente questo qui ha detto che ne prenderà anche due per durare il più possibile e dice che li dura ore, ma io la verità, grazie a Dio, non ne ho bisogno, ma questo qui dice che li prendono perché sennò non potrebbero girare un film completo. Ma ti riferivo a me, bracco? Oh, non mi riferivo a te, riferivo a te. Stavo dicendo che praticamente questo qua in un'intervista ha detto che sì, che li prendeva perché la durata del film è quella, quindi praticamente non potrebbe reggere senza quel prodotto. K, praticamente su che andiamo. Attenzione, bracco, riprendi, li saluta perché hanno un colpo di massa, devo andare a telefonare, ok? Se rientra Roberto me lo salutate e arrivederci. K, bracco, ti salutiamo anche noi. Speriamo di non averti scandalizzato. Sono vaccinato, non ci sono problemi. No, scherzo, dai, ciao, ci sentiamo. Buona bassa, dai, ciao, avanti per ok, dai, ciao, ce la riascoltiamo le prossime. Bravo, se l'ha impegnato al computer, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti chi vuole entrare sul canale 21. Tornalo oggi sì, no? Oh, sono de stanco sicuramente, ma dove era a Cagliari oggi? Ma non c'è Vaulbia, Argacchino, c'è quella zona. Così era, a me mi sa che mi ha detto che era domani quella, eh. Dove a Cagliari? Lunedì c'è a Cagliari. No, oggi era il preparativo mi sa che era. Perché domani c'aveva appunto Olbia, Tibio, e quella zona lì. Ma a me per il pare mi ha detto una cosa del genere. Vabbè, comunque, era stanco, ci accetti a casa, non può modulare, perché se dove c'è l'apparato, infatti gli ho consigliato di metterselo più appartato l'apparato, perché se arriva gente se lo trova davanti. Sì, e dove se lo mette? In cameretta, in camera da letto. In camera da letto, poi c'ha la moglie che vuole dormire e non lo può mettere, perché a certe ore non può modulare. Vabbè. Anch'io c'ho quel problema, però uno si rispetta con l'altro, quando arriva preme e spengo, cosa devi fare per là? Infatti io mi devo organizzare un'altra stazione adesso a casa. Non lo so, è tu, ma va bene, meno male che la tua, ma ho detto abbastanza tardi, dai. Sì, non c'è problema. Io quel problema non ce l'ho, No? Sì, vabbè. No problem. Già, però per organizzare, magari metti il capo, una trompetta di capo, non fai altro che attaccare e basta. No, non mi piace. Mi organizzo col portatile, un'altra stazioncina. Quando c'è soldi per comprarmi quell'alimentatore a 50 watt, me lo compro e l'altro lo metto in cucina. Un'antenna? Ah, un antennino così. Buchi la ringhiera? No, un antennino del portatile già va bene. No, invece buca puoi mettere una stampa. Perché l'avevo già fatto, e gli ha detto che quando c'era vento gli alzava le lenzuola e le straccia. No, c'è una stampa. Girata da una parte come giro io non era fastidio perché anch'io c'ho così. Però sta girata dall'altra parte non era fastidio. Certo se la legge rivolta dalla parte della roba stessa, sì, ma e poi la stampa si è fatta bene cosa che mi cattaglia niente. No, io l'ho messa in punta proprio, in punta al ferro. E allora, e beh, cosa combina la stampa? Niente. Se c'è il ferro nel collo, allora anche il ferro si taglia. L'antenna era una boomerang, non ti dico altro. Ma sai com'è fatta la boomerang? No, a L. E quando c'era un po' di vento che le lenzuola lì svolava, si agganciavano lì. Tu non ce la mettere una boomerang? Dice una storm per risolvere. Ci metti una storm no, e non taglia niente. Gappa. E vediamo adesso. È tutta una cosa campatenaria, vediamo un po' cosa fare. Perché dovrei spendere altri 135, 145, 148, quasi 150 euro per realizzare questa storia. Per realizzare quella storia? Cosa cacchio devi spendere? Comunque la boomerang c'è qua, ma la boomerang sì, buonanotte. La storia c'è qua. No, perché devo togliere l'alimentatore più piccolo che c'ho, che è da 10 ampere, qua, e metterci quello che c'ho già al posto del 10 ampere, e quello da 50 ampere metterlo su, così se qualsiasi cosa voglio attaccare posso attaccare, se voglio mettere più apparati, più cose, perché c'ha tre attacchi, capito, è comodo. Sì, allora, così tanto costa. 135 più le spese di spedizione. Oh, vabbè, ma switching, sì. Sì, sì, è Switching, però è Switching. È un'altra marca, se non mi ricordo come si chiama. Ma comunque è valido, è bello. C'ha tre attacchi, uno c'è di sigari e due di quelli a banana. Entra a pagliarlo a me. Sì, infatti, no, anch'io se ne prendo uno, se lo prendo bello forte. E anche perché per fare quello lì anche da solo potrebbe alimentare tutti gli apparati che c'ho, non è che è per avere le cose separate, perché se no uno solo potrebbe alimentare tutto. Diciamo che comunque a me già piace molto tutto separato, E anche a me. Io per dire in uno c'ho solo le luci e l'ala 48, in quello da 10 ampere. Nell'altro c'ho il coso, c'ho l'altro. In capo. No, ma perché quando è tutto suo anche non è che non mi attira, capito? Invece quando ce ne sono di più è più bello. E poi sono tutti illuminati, con strumenti grandi, sa. È una cosa più bellina. Infatti. Anche per esempio, anche se non li uso tutti io, ho due accordatori, quattro rospetri, però mi piace tenerli esposti, anche se non li uso tutti, poi ne uso uno, però mi piace tenerli esposti lo stesso. Io dovrei farmi delle mensurine, ma fatte in camera da letto non fa, dai. Delle mensurine e metterci magari degli apparecchi di quanti in fila. Io, vedete, gli apparecchi che c'ho, la LAN 48 che c'ho fermo, gli altri due portatili, l'LPD, tutte queste cose qui, dice Vittorio, lo vorrei mettere tutti quanti in fila, dai, portatili in fila. Io così qua ce li ho. Ti avevo visto la fotografia, tutto quanto qua io c'ho, Beh, certo. Ma io sono sempre... sono... Posso fare sempre un altro ripiano. È che tu non ce l'hai una stanzetta separata come forza stazione, non ce l'hai? No. Non ce l'ho. Uno scappuzzino nemmeno, nulla. No, niente. Fregatura, se lo, cioè, perlomeno a me piace così, molto simpatica, la stanzettina da sola, capito? Io infatti ho già il progetto di fare una cosa, una separazione, fare la stazione da una parte in solitaria. Ma è muratura la separazione? No, non è muratura, ma separata. Ma io qua, a me non mi rompe le scatole nessuno, sto abbastanza tranquillo. Vabbè, ma... Sì, quello sì, che vabbè, anch'io sto abbastanza tranquillo, ma... Dico, per l'altro sistema, dai, che... delle volte vuoi far entrare qualcuno, ecco. Lo so. Ma io lo faccio entrare lo stesso, problemi non ne ho. Tanto non ho nulla da nascondere per fare. Vabbè, non c'è niente da nascondere, ma è sempre una cosa, diciamo, boh, non lo so, ma non mi piace, ecco. Paga. Vabbè. Una questione di comodità proprio, capito, la mia. A me è stata solo una questione di comodità, perché l'avrei potuto mettere in cameretta e non l'ho fatto. Che poi vedi loro da una parte c'è la PlayStation Marco in una scrivania, nell'altra scrivania Manuela e si fa i compiti, nell'altra scrivania c'è la Manuela, c'è il computer e si fa i compiti. Quindi lì è un po' occupato. Non c'è altra alternativa. Se non c'hai altro spazio, sì. Non è l'ingresso, non mi piace lo stesso, Ma manca a me. L'ingresso, troppe persone entrano, escono, fanno, vedono. Non è che c'è nulla da nascondere, ma magari stai parlando i cavoli tuoi e devi interrompere. No, ma no, non mi piace perché è troppo in vista, non è che non... Cioè, sarebbe bello a vedere così, perché almeno non c'è niente di... Ma il solo fatto che magari c'è qualcuno che non vede solo e mette le mani e mi gira già le palle. Sì, quello sì. Quello è vero. Guarda, Liliana lo sa già che qua non può manco spolverare, ci penso tutto io, perché magari spolverando, l'ha già fatto altre volte, ha spolverato con lo straccio e cose, e si sono spostati i parametri della regolazione, capito? Infatti no, anche qua è così, qua mi arrangio tutto io, non mi è toccato niente, ma fuori no, proprio non mi piacerebbe. Ripeto, anche se sarebbe una bella cosa avere una stazione radio, ma no, la mia paura è che possa avere qualcuno e toccare e mettersi a fare, che sai come ci sono, beh, io ci sono troppo curiosa e ti rampa le mani. Lo accendo per sentire. Ma un posto io ce l'avrei, però non è indicato, non è molto indicato, la veranda. La veranda c'è il posto, per metterci una stazione anche bella. Solo che d'inverno c'è freddo, d'estate c'è caldo, non è il massimo. Certo di dire così. No, ma io già me la creo adesso, me la faccio. Senti, la cabina, tipo quella del DG. No, io ho intenzione di fare una divisione di questa stanza, qualche metro quadro, tirare su una parete in cartongesso, e farò una cosa separata e lì mi ci faccio il banco tutto della radio. Il cartongesso però si faccia subito lì per parte. Pensa che l'altro giorno devo portare dei quadrati in cartongesso nel negozio. L'ho preso con lo stretto, con la mano se ne farà, si è mancato. E quando sono così, ma vanno trattati poi. Ma così è? Beh, certo, poi vanno trattati. Appunto vanno incamiciati col gesso, ti mettono ancora tipo la parete. Ci ho fatto un trattamento, ma prima... fatto uno strato di gesso, poi ne ho fatto un altro con un diverso gesso e poi alla fine vai tipo dentro la cattura che ho fatto. Ti assicuro che diventa duro come una parete. Certo se gli dai un calcio lo sfondi, quello sì, però diventa uguale come una parete. Un'incamiciatura? Sì, alla fine c'è un'incamiciatura che potrebbe risultare un centimetro e mezzo da una parte, un centimetro e mezzo dall'altra, e diventa duro, vai. Ti conveglia che non si vede fare le murature, buco. Ma scherzando, stai. I soldi. No, ci vogliono troppi soldi e poi se devi smontarle tutto, ancora, per colpi ne lo butti giù. Paga. Sarebbe bello avere un posto tipo come quello di Walter, che c'è il bunker giù, ed è tutto per lui. No, poi come ti ho detto già, lo sai che non, su questa casa non ci spendo manco un soldo, lo sai, te l'ho detto da qua, vabbè, spero che sia più tardi possibile, ma comunque da qua sparisco. Perché è più tardi possibile? Perché se la trovi una bella campagna, ti la borsa, ma mandovi a una testa. Non la smuovino. E è attaccata con la casa. Perché dice che qua c'è tutto, insomma, sono i tempi sottili, ma comunque, vabbè. Attendiamo ormai, abbiamo passato qualche anno, attendiamo ancora, dai. Vaga. Avanti Natale. Antonio. Mi scappa. Vabbè. si vedrà, dai. Natale ancora sta chattando con la signorina. Sicuramente è impegnato con la signorina. No, negativo. Ah, perché non ci ha risposto, io credo che è ancora impegnato. Stavo andando in bagno e sono tornato indietro per rispondervi. Ah no, no, scusa, vai, vai. Non ti vogliamo trattenere. Non hai finito la fase di tutto, mi. Guardare troppo il computer fisso, eh. Non portarti la fotografia appresso. Se c'è un asciugamano, prendi l'asciugamano e asciugati. Ma il mortacci, Wood, per poco me la faccio addosso. Già fatto. Non siete cattivi, siete solo dei piccoli bastardi. Oh, sempre. Non fare troppo la mano, eh. Sono Togo e Antonio, eh, Bu. Carissimo Antonio. Natale, ma stasera che fine ha fatto, Franchetto? La Giuseppe, Mario, Bu. Ma cosa ne so, Camerodi? Giuseppe stava pigliando colpi dalle due pantere lì. Franchetto non si sa se c'è caduto nella botte e Mario, boh, non lo so. Mario, vai, Mario sta mangiando a quest'ora, lo so. E infatti. Capra di orologio. Che hai fatto, Tutto fatto. Cosa c'hai, il tubo da baracchino acceso? No, è proprio per quello che non vi stavo rispondendo, perché stavo per andarci e sono tornato indietro per dire che ero qua. Prima sono andato in cucina che stavo bevendo e stavo per andare in bagno e ho sentito voi che mi stavate chiamando. Così è. Ma tutto sei a fatto? Tutto. Beh, Gianni. Ehi. Qua sono qua. E vabbè, adesso ci provo anch'io a chattare su cosa. Io comunque un po' di amiche ce le ho nuove. A proposito, ma Capri 2? Capri 2 oggi non si è sentito, sarà impegnato. Attento Capri 2, mica lo so che si ascolto lì, vieni fuori. Come c'è niente? Certo. Ho capito, Vicente. Pomicelli. Ah, Pomicelli. Ho detto che sta pomiciando. Perfetto, vieni fuori. Buonasera. Hai aperto la porta adesso? Si ha scrivivo, se mi ciocca. La vanella è tu là là. Carissimo Falchetto. Carissima! Oh, perché? Dimmi, vieta. Ma vero è quello che mi ha detto una persona? Ma se sia vero, dimmi. Che al posto del comodino c'è la cuba? Sì, c'è la cuba con la pompettina. Elettrica. Ma si chiama Garradito. Circolazione alcolica. sono sveglio. A me mi pare che mi sono dormito da una volta e dove è quello che mi è stanco, già sono stanco, ho fatto un po' di cose stamattina. Allora, la pantera non sta schiavizzando, non travaglia, ma quando non travaglia che aveva la pantera, lo quasi travaglia a casa. Hai fatto che avendo in breta al mondo, vedi? No, quello, quello, però ho fatto un po' di commissioni. Cava, cava, e cava, cava, Boia, io sono stanco davvero, c'è a Marcolino facendo l'oscia, ha fatto casino la cameretta, si è venuto qui a dormire per una sgamata. Così, avevo sentito bene la voce allora. Cosa ha detto Falcè? Ho detto che siamo tutti tranquilli e sereni. Tutti tranquilli e sereni siamo. Io lo so, non so che sei tranquillo, eh. E io cantaci la canzone. Marchito. Oh, yes? Cantaci una canzone di quelle alla Zassarisi. Sul monte smetto l'uomo nero bianco. La Zassarisi. Sotto Zassari. Inza. Via chi di vino, zimino e gioca. ci vuole pazienza. pazienza, pazienza e sangue freddo. Pazienza guru primo, bighere. Sei in quarta, vuoi passi subito, e per forza che se ne scappano. Tu sei troppo veloce. Dai, bisogna lavorarla la donna. Oh Gianni, sto aspettando due giorni, cata, e ancora non gli ho chiesto se me lo dà, figurati. Cosa così si sente? Ma te li fa una cosa, organizza una cena io. Ma lei c'è prima mi devo dire, mi devo buccare a femmina, ma poi la zena la posso buruga. Ma ci vuole pazienza e tranquillità. E poi, alla fine di tutto puoi fare anche il raus. Tu sei maligno, Antonio, caro Antonio, sei maligno. Io gli strappo solo il perizoma. Sono HP2, era questo su 5. No, no, no, no, no, no. Danni, ci sei? Questo qui è Alessandro. Non mi futti due Alessandro, anche se fai lo su 5 non mi futti. Doppio rum è troppo anziano, che frequenza. Ma fa bene in varia, già. Sì, Alessandro. E allora, Alessandro. Abbonore sordo. Perché sei così basso? Sì. Siamo tutti quanti uniti, siamo tutti quanti offesi, anche se siamo già salesi. Ma Falchetto che c'è di rubare parole, lo lascia. Tu mi dici un po' pagano, in mezzo all'aglio e a rubrendo simuru canto a di a rugomodu di manira varassaive la cosa non tocca la mai sino da putifla ai ai ai ai ai ai ai bella, bella canzone quella, molto bella ma ti piace? Allora mi piace te. No, non mi ricordo chi l'aveva fatta quella canzone, non ha fatto molto successo. L'avevo sentita un po' di volte e poi era sparita, però mi era rimasta in mente questa strofa. Sì, sì, l'ho sentita un po' di volte, quella lì. Sì, sì, già l'ho sentita. Una canzone già ascoltata. Giovanni un giorno. No, non è Giovanni un giorno. Sì, non me la ricordo adesso, ma chissà. A modo mio era di un altro. E la musica è la stessa, come si chiama la canzone ufficiale? Fa a modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio, avrei bisogno di sognare Dio. Io non mi ricordo il titolo, Lucciolada già era. Non meno io il titolo, me lo ricordo, però. A modo mio. A modo mio era. Sai di sì. Sicuro sì, boh. Non ricordo, ma il sentito è tu. Luca quella a modo mio, ma rimbriaghera mi la piglio io. Lo so che la canta anche. E che? Dimmelo, non me lo ricordo. Si chiama Tole. Aspetta, quello non me lo ricordo, Luca lo conosco. Perché il suo vita si chiama Nicola De Rigo. Adesso canto adesso di Risi quel gruppo. Tole, non mi ricordo il cognome, di altro la tua. Beh, non me lo ricordo. Infatti te lo sto dicendo, sotto l'occhio, ma non me lo ricordo. K. Tole, boh. Sì, comunque mangiamo, odo mio, ma rimbraghera mi la piglio mio. E così faceva. Era bellina, poi il seguito, adesso non me lo ricordo, ma era bellina, eh. Poi quella che mi piace di più è Mamma non ti manda. Ed è una canzone che io ho visto proprio mentre la cantava piangeva il cantante, scendevano le lacrime mentre la cantava. Era quello, era una bella canzone. Mamma non ti n'andà, mamma non ti n'andà, dove di chi lo gori ben manchendi e piniendi so gu cantendi. Ah no, quello non era Picasso, allora pensavo l'altra. No, quello no, ma ora mi vedi quando ti sa solo di campane lo carro piano se ne andene e io non conosco più felicità e dare dalla tua grossi. Yeah. radio. Ha bisogno di una sentata da letto tutti e due. dove uscite presto, dove uscite alle 5 e mezzo da casa sua, metti 10 metri a mezz'ora a trapigliarsi il caffè, scendere il deposito, pigliare la barra e uscire dalla guardia, mezz'ora di riscaldamento di motore, minimo io se devo ammazzare i cerisetti. E vabbè, volevo fare un bel giro magari. Ho fatto un bel giro oggi, volevo riposare. Che cosa ne vai, Manu? Ti hai posato in un salotto, non ti fai accappare nulla. E io sono mica a lasciare Gesù per camminare a Giura. Vedi, per esempio Gianni sta già prendendo il volo. Ah, Gianni pure è vicino a decollare, ma non lo so se ti accappi due. Mario, sei tu, non sei passato. Vento, che oggi non ho sentito, a capri due, cambio. C'è un po' che sta... è andato a comprare, a fare una cosa, è andato a comprare un po' di cerotti. Mamma, vedi che qualcuno ha pigliato il San Mattarello. Luca Babbo Boglione. Sta ancora facendo la medicazione, quindi no, non c'ha tempo. Carta di positivo. Andare, vedi su quella sirena che si giochetti. Se ti riduca tu una sai cosa che si è fatto meglio. Io non la sento, poi sentite la sirena. Che sia, mi dai tutta. Che come, beh, perché io secondo te c'ho la sirena. Si è attrezzato tutte queste cose, tu sirene, coso, come si chiama, ghiaturini, di tutto, va. Leva. Tutti quelli che ti stanno ascoltando, che porco, adesso hanno detto, ecco, lo sa lui, lui lo sa perché lo conosce bene, quindi è lui. Ora lasciati di, la gente avrà sempre da parlare, che fa bene o che fa male, avrà sempre da parlare, per cui, divertitevi. Io c'ho un suo cuore, la sirena. Guardi, va bene. Ma che cosa ne dici già? No. Mi curi, curi, curi. E me lo vado. E me lo godo coi capi. Aspetta, aspetta, aspetta. Un attimino, che non si... Fammela sentire. Fammi sentire la sirena. Adesso l'ha fatto scaldare bene, quindi arriva più buono. Lasciatelo giocare, anche lui ha diritto di giocare. Che cazzo sono voi dovete giocare? No, ma se non me la fa sentire bene. D'accordo, d'accordo. E beh, fa che andate se a fatto il rosso. Oh, allora. Appa gappa, baci piano, se no domani trovano tracce di sangue nel vino. Sì, fa, no, sto facendo la persona brava, oggi va. Miau. Sì, assosso. Aspetta, che qua mi ha detto la sirena, non so che cosa è sottofondo. Capri due, tu sì. No, non era lui, no Gianni, era qualcuno che ha detto in culo la sirena. E avanti, avanti. In avanti. Parla a te, a quello che ha detto in culo la sirena. E va a essere qualcuno con le orecchie di porco che la sirena gli dava fastidio. Tu riprendi. Scappa. Deve essere sicuramente. Qualcuno, ma io ho capito, va. Sei basso basso. E chi sa di gare? Che la ricordo. Era meglio prima, vero? Comunque non va registrata, perché se sente forte e poi si allontana, è una sirena registrata. K. Sì, una sirena di passaggio. Quella è antica come te lo brutto, la sirena a fischio. Ce l'avevamo il 238 quella che faceva. Oh. Ecco. Cioè, io ci sono andato un'altra mia, io un battaglione. Ecco. Avanti. Buonasera Mario, tutta la ruota, vai, Massimiliano Bulldozer. Ciao Bulldozer, in compagnia mia di Antonio, Falchetto, Vela, Gianni Doppio Rumo e forse c'è anche Coso, se non vado errato ci dovrebbe essere anche Luca. Ok, dai, buona serata a tutti, buonasera, buonasera. Ciao, Massimiliano. Buonasera. Buonasera. Ciao Pierpa, buonasera anche a te, a Tullio, tutta la ruota. Te a Massimiliano. A pagare, allora cosa si difende? Calcino. Sei agente su sirene, ambulanze, cari che sono animali. Stavamo facendo il karaoke, poco fa, non c'è sentito. No, negativo, acceso proprio un minuto. Cioè, si diverti. Abbiamo cantato. Avete cantato? Tutti quanti, io per Paolo, Antonio, anzi no, forse Antonio no, io per Paolo Falchetto, dopo chi c'era, Mattarino, tutti cantanti. Ma perché tutti assieme eravate? Sì, sono tutti in questo canale, non tutti assieme, è il canale, no? Ci passava il microfono, poi io cominciavo, la migliore in forno, era si diceva, è buona, c'è ringhita, poi continuava, capito? Cavagare, no, che eravate tutti assieme, vi avevate bevuto qualcosa. No. Io non ho bevuto nulla, acqua e botte. Io stavo ascoltando. Ah? Certo? Io stavo ascoltando, non dirlo a me. No, negativo, davvero, cazzo, vedi. Poco fa ero con Gianni, è arrivato il mio socio che stavo mangiando, che ho mangiato un bel panino con viuzze e patate e cipolle. E ha acceso 5 minuti. Ma lavoratori oggi, Massimiliano? Poi, sai che mi travaglio, io? Ho lavorato? No, negativo, neanche domani. Neanche domani? Niente. Certo, vabbè. E cosa devo fare? Grazie a voi, ma c'è pure la bicicletta in capo e parabio. Ma lì ci sono anche i mancanti, beh, come fanno a far stare fermo così per tanto tempo? Ma non solo a me, no, tutti mi, capito? Sì, già, ci compreso appunto come fanno a star fermi così tanto tempo e se ne fregano. A chiedere di no, virare, mamma mia, gli amici, capito? Di te che lavori, che guadagni con lo stipendio, che mangi da quello, non gliene frega un cazzo, tanto loro ce l'hanno per mangiare, compreso, e i soldi. Quindi, di te, stai fermo o lavori, te ne puoi fregare di meno. E meno si acciappa che si manda a fare pure subito. Ma sono organizzati un bel male. E ma quel tipo di lavoro, Massimiliano, come il muratore, magari il muratore si salva di più perché lavora all'interno quando c'è l'interno da fare, ma se è all'esterno anche il muratore si ferma. E già, io ti dico una cosa, io ho lavorato quasi 10 anni con la grande trazione, e piovendo, gira gira, non mi sono mai quasi fermato un giorno. Quasi mai, ma proprio mi fermavo solo se esclusivamente cazzo c'era mezzo metro d'acqua, se no abbiamo sempre lavorato. Quindi che cazzo non verrà meglio travagliare, fate una di beva e dettagli a casa. Non so. Sono lavori un po' particolari, dai. Non so, anche le dita, dipende anche dalla dita, se è meno seria e sono più seria. Però quei tipi di lavori è già appunto che quando piove non si può lavorare, quindi no. e loro poi magari ne approfittano e allungano, capito? Certo, ma qui non si tratta che non si può lavorare, perché per esempio oggi si poteva lavorare, non ci hanno fatto lavorare. Finché sta piovendo mi fa anche bene, ma cazzo, l'indomani che non piove si può lavorare. E qua non è cosa di pioggia o di crogia, è qua nella vita che non c'è un cazzo. Scusando ma la frase, però è così. È la vita proprio a bassi livelli, là. Vabbè, Massimiliano, cercate un altro, magari anche se non è quello lì specifico, anche se so che ti piace quello. Ma se te ne trovi uno più tranquillo, non è meglio. Già, in cerca sono in cerca, capito? Qualsiasi tipo di lavoro lo faccio, non mi interessa più nulla. Questo andammi a farlo maniare, travaglio ogni lì. Io devo portare la pagnotta a casa, cioè, la famiglia porta avanti, mia moglie non lavora, a stare fermo a casa mi viene dopo mai. Lo so, perché anche a me fa così, anche quando sono in fila vedo l'ora di tornare, poi magari quando dormo mi stresso, però è così, ti fa così, quando è abituato a lavorare, hai ragione. E io vabbè già lo trovi, dai, prima o poi, magari ne trovi uno migliore e ti nafutti, poi la ruspa se te la vuoi guidare, te la guidi, ti fai qualche lavoretto fuori coso. Ma dico, se trovi un lavoro più tranquillo, non saresti propenso. Sì, già, ti ripeto, qualsiasi tipo di lavoro, capito? Giustamente devo ritirare più o meno lo stesso stipendio che prendo qua, sennò casino. La ruspa non mi interessa più di tanto. Cioè, ho imparato questo mestiere per fare questo, però mi sa che qua la cosa sarebbe... Non c'è niente lì, non in giro, non c'è pochissimo lavoro già. Ma non sono nel mio campo, ma mi sembra che c'è poco lavoro un po' per tutti. Purtroppo cosa ne va. E qui là, rilanciamo Mike a Falchetto, vai Falchetto. Io mi approfitto a salutarvi là, che domani mattina andrò a fare queste analisi. E niente, là, ce ne riascoltiamo tutti alle prossime. Ciao, buonanotte a tutta la botta. Grazie a eventuali ascoltoni. Ciao ciao. Ciao Falchetto. Ci sentiamo domani, alle prossime, vai Vela. Ciao Falchè, buono tabacco per domani, c'è la Siria, ascolta, ciao ciao. Ciao Falchè, ce la risentiamo domani alle prossime, ciao ciao. Ciao, ciao ciao a tutti, buonanotte. Io gliela, casino in Germania, tutti i drecchi sono, e non che sono tutti santi. Praticamente mi saluti e dirò che deve partire in Libia. Non vi voglio manco pensare, per carità. Ma detto, come mai? Se non vedrà mai, non vi vedrà mai, se fosse gribato tutti i campi di là. Non lo devi fare già, è purtroppo uno non può stare così, capito? Per portare avanti la famiglia uno è propenso anche a partire fuori. Scusatemi, devo chiudere che qua la bambina sta piangendo a livelli viola. Ma vabbè dai Massimiliano, buonanotte a te in Corea, dai. Un bacione a Gaia. Ciao Massimiliano, ciao, buonanotte. Massimiliano, buonanotte, dai, ce la risentiamo alle prossime. Ciao Massimiliano, 844 tutte le prossime, non disperare, che qualcuno dice quando solo esce, esce per tutti. Deve aver chiuso perché Gaia stava piangendo, riprendi Piero Paolo. Mamma mia, tanto, Antonio, prendi la forbice e taglia quel cavo dell'antenna. Non lo sa. Ma te lo dici, non cosa va a posto, mamma mia. Ma la televisione li hai, ce li ha per volare. Dai, togliamo il capo e si risolve tutto. Capito già, qua, la 50 mi fa i dispetti. Cosa ti ha attaccato? Ma penso posso trovare. Cazzo, ma te la televisione, cazzo, mi pone a cantizzare, io posso volare la televisione, posso volare. Che bello. Ok, cosa resta di sopra la televisione? Non resta di sopra la televisione, ma non c'ho la cuffia, non mi sono messo la cuffia, quindi non la sento la televisione. Perché te lo si chiama la tua? Adesso la camera mia va lì e qua, che mi sta disturbando a me con la televisione. Ogni volta mi deve disturbare con la televisione. Tu vuoi vedere i cuffi? Che deve stare vicino a me ad ascoltare quello che dico. Conosceranno qualche anno. Se non parla di femmine parlo lo stesso. Ti prenderai qualche colpettino. No, occhio. No, niente colpi qua. La soluzione è già c'è, io ho l'antenna avvicinata al televisore, basta darle appena di qualche cosa e non la vedi più, canti sardi. Gianni! Eh? Oh, mi ha fatto il battitore! E io cosa sto dicendo? No, non ho detto niente di strano. Perché? Cosa ti hai filato? No, hai detto che ogni tanto ti arriva qualche colpo e me ne è arrivato uno. Ti ho detto che non ti arrivava, ho visto questa dimostrazione. Ce l'ho ti anche per Pierpaolo. No, cazzo, no, io attacco la 80 e occhi. E forse vado alla zampa. Appagà. Fai da bravo. Mario, ma perché devo stare sempre lì a curiosare? Ah, non lo so io. Non lo so, e non so cosa dirti. E non lo so, dimmi, mi ha difesa, dillo anche tu che qua non ce ne sono in frequenza di femmine, dai. Beh, perlomeno se adesso credo che non ce ne siano, si da buri. Che ancora per la casa base, io non lo so, la mani di fuoco non la posso fare nessuno io. No, che qualcuno già c'è, nella coronata. Ah, non lo so, io è la prima cosa che sento che c'è questa Elena, boh. Ma tutti sono tutti equalizzati, boh. Non è che siamo tutti equalizzati, io l'unica che ha inteso è chi da chi la difende a Coso, a Capri 2, e la buia da dura battuta, questi uomini sono tutti gli stessi, fanno finta di non sentire, da buia io non lo so a cosa era riferito e a chi era riferito, da buia i femmini non ha inteso asso. Mario, non dire niente che ancora con i cerotti, che se lo tenne che se tu la sia la credere, no, uioia, perché la domani è tutto quanto bene in capo. Tanto poi sarò che babbo buglioni, ucci. Capri 2, vieni fuori che non ti facciamo niente, ma lo sai che si è fissato e gliel'abbiamo mandato a noi? Camera, se era proprio un bambino della gente l'aveva regalato a casa, domani l'aveva fatto fare che cosa, ogni tanto l'aveva detto, vicino, dimmi a me da inghile, da bui, che cosa ti ha fatto? Noi mi credimmo, non mi credi, fissate me l'avevo mandato a noi. Capri, se mi ascolti, quando vengono a cercarti, mandali tutti da me. Che qualcosa da fare già gliela trovo. No, non entrano, boia. Ancora che ci vogliamo a Sanabria, vuoi che pensi? E cosa ci vogliamo fare? No, io di qui gli scherzi non ne faccio mai, non ne dico neanche perché no. A parte che non me ne frega niente. Però casa chi sa di tante che è davvero, boh. Allora chissà cosa ha detto. Hanno organizzato per fare che si va tutti, boh! Ma io ho detto, no, ma ci è proprio andata da lui questa qua, la macchina. Ma io piuttosto che mandarle una così buona da lui, l'avrei mandata da me stesso. Beh, non ho compreso, stato in Massachusetts, è stato in Massachusetts, un po' di Minnesota. Allora, Gianni, tu nuda ne sai, no? Beh, stai c'è. Sì, a te. Non so niente, io vivo in campagna. Oh, io lo so che tu non vivi in campagna. Per modo di dire. E come è, tu sei di campagna e farò uno scherzo così, No, no. Assolutamente, poi Capri 2 io lo stimo, non è, è una persona tranquilla, non ne farei mai una cosa del genere, sempre una caroniata, cioè chi l'ha fatto ha fatto una cosa indegna, perché queste cose qua prima andando avanti, lo sai che cosa succede, no? Quindi non sono d'accordo manco su chi ha fatto quello scherzo, sul primo posso anche essere d'accordo se era uno scherzo. Ok, ci siamo fatti quattro risate, ma l'altro è un po' pesantuccio. No, beh, certo, no. Facendo anche io quello perché addirittura di andare lì e presentarsi, cazzo, avrebbe preso anche a calci il culo. Diciamo che... se magari uno scherzo, se uno scherzo è una cosa, se magari è stata sua della tipa l'iniziativa di andare, perché ha sentito tutto l'ambaradan e si è presentata lì, è un'altra cosa. Bisogna vedere com'è la situazione, se hanno macchinato qualche... magari c'è in ascolto qualche diabolico che ha macchinato certe cose. Ma ascolta, però, come fa? Allora, una che ce ne sono, allora, possiamo presumere che ci sono tanti ascoltori, che hanno sentito tutta la baradana, hanno preso la palla al balzo, e gli fanno lo scherzo a sua volta. È impensabile anche, boh, non riesco a capire perché si sia fatta avanti questa persona. Andare in paesi, andare a cercare, poi sul posto di lavoro, cioè, a chi sa che mi ha dato l'indirizzo di travaglienti, non arrivo a capirlo, No, Mario, ma sicuramente ha sentito in radio, sentito, c'è un barchino in macchina, magari, ascoltando, qualcosa del genere, ma non penso nemmeno che sia la sorrisa, ma sarà sicuramente anche in paesi. Ah, non lo so, no, io la verità ho sentito a lui, però no, io con le orecchie mie, a parte la prima che stava cercando, a parte quella lì, poi non ho sentito altro. Vabbè, anzi no, bugia mia, è stata due giorni di fila, che prima mi sembra che Gianni l'aveva detto che era su 5, o non mi ricordo chi gli avesse detto, guarda che su 5, niente. E poi di domani c'è di nuovo facciata, che aveva dato quella battuta. Però, non so manco se era la stessa modulazione, ma comunque. Ma già è così, l'altra sera, precisamente lunedì sera, l'ha cercata, lo può confermare, basta chiederlo a Gio Maria, l'ha cercata lì nel camera a Gio Maria, poi due volte a me, poi a chi l'ha chiesto, a Luca, ho sentito Luca nel canale, l'ha chiesto a Luca se l'avevano sentito, e l'abbiamo sentito noi anche molto bene, non so dove, era fortissima. Noi abbiamo fatto via Duca di Abruzzi, siamo entrati in via Zaffarino ed era fortissima lì, si sentiva chiara chiara. E quindi non è una cosa così, no Mario, è una cosa che... Allora te lo dico, il primo era uno scherzo. E sto pensando che qualcuno l'abbia preso, a palla al balzo nello scherzo. Può essere pure, comunque... se qualcuno è così bravo a fare scherzi, tutte quelle che trovate mandatele da me. Ogni sera dopo le 6 qualche lettina da padre gliela troviamo. Se poi viene mio figlio gli dico di andare a farsi un giro, già lo mando via. Ah no, io devo mandare. fianco. D'accordo. Ovvero, avrebbe messo Savani se ne usa Gianni. Adesso quella Elena si presenta da lui, ha suonato la porta. Va bene, cante una canzone, Elena no, Elena no. Ciao, sono Elena, buongiorno Gianni. Se si presenta a me non sono un capriduto. No, guarda, forse avete capito male. Io sono quella Elena che vende il folletto. Mi ha detto capito che c'è il folletto in macchina, se non è che prendono gli indirizzi, boh, cosa ne so. Lui mi ha detto che è simpatico. Poi mi ha domandato pure se a cui va. Beh, magari era qualche battuta. Comunque, quando mi ha detto così, ha detto, perché cosa sei innamorata di lui? No, gli ho detto, cosa c'è la corte? E lui mi ha detto, no, si è messo a ridere. Ha detto, mi è solo simpatico, ha detto, sì, ma tu, una persona simpatica, ma perché sei qui, madonna? Come te mi non lo so come lo penso, ma vabbè, comunque. Va bene, per me è arrivata l'ora di chiudere, dai, se non qua cominciano a torturarmi. Io vi saluto tutti quanti con la buonanotte. A riascoltarci a tutte le prossime. Ciao, buonanotte circolare a tutti. Ciao, ciao. Ciao, Pierpa, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, Pierpa, buonanotte, va buono. Dai, ne approfitto anch'io, così chiudo anch'io. Buonanotte a tutti, dai. Ciao, Gianni, buon lavoro per domani, se lavori. E se sei in figli, buone figlie. Ciao, buonanotte. Tutte le prossime. Non sono in figli ancora, ciao ciao, ci sentiamo Mario, buonanotte, buon lavoro per domani. A tu. Va, ciao, buonanotte Mario, ce la risentiamo domani. O alle prossime, ciao ciao, buonanotte. Io non ci ho salutato. Ma sicuramente capire se dove si era diratto, ma cosa ne so? Non penso già. Non penso, magari stasera non ne aveva voglia. No, che qualche puntatina l'ha fatta. Qualche cosa però non è entrata. Mi è sembrato lui. Gappa. E telefonava di giorno a tirarsi. Beh, giustamente si avvita uno. E bisogna tagliare la corda, dai. Gappa, gappa. Ma non penso, magari io di non ne aveva voglia. Ma sai cosa, se si prende lo spunto poi diventa un discorso, quindi è meglio tagliare. Tanto saranno affari suoi, saprà lui come gestirsi la situazione. Gappa gappa. Non cos'è che succedono, dai, non è niente di particolare. È macchinato da Gachidumbo, da secondo me non è possibile, ci stavo pensando, fatto. Non è possibile, ma ultimamente vedo che esistono i furbacchioni. E che se può fare? Nulla. Che ti stanchino sono stasera, l'ho trovato forte. Me lo posso immaginare. Anche stamattina, anche se non ho lavorato, ho camminato un bel a piedi, quindi sono stravoltus. Aia, sono andato in città a fare commissione, ho messo la macchina via Mendola lì. E poi tutta a piedi, perché tanto non trovi parcheggi, ci sono i punti e cose, devi metterla dove trovi i parcheggi. Già, ne stavo pensando, comunque quella situazione che mi hai detto stasera sarebbe da stabilire, anche se siamo tutti e due in mezzo. Lasciami pensare. Ho capito, quella di stasera della vagista. Ma, il problema è che sì, siamo due persone in mezzo, proprio lì. Ma io infatti gliel'ho detto. E l'ho detto che ce ne sono altri dei più su, ce ne più giù, insomma. No, ma non ha detto per protesta. a lui gli piace, intendi che si gosse e si decosse. Adesso che sono talmente deboli che prendono il segnale. Ma penso che una persona rientri meglio di me perché è più vicino. Io ho capito. Ma non modula quasi mai. No, non è capito. Cazzo, sta più giù chi c'è. Già modula. Già modula, voglia. Però con la... pochi minuti fa. E quindi siamo in mezzo, dai. Ma comunque se ci ascolta, fa niente. Ha detto che mi ascolta, che non è che mi stai facendo per protestare, l'ha detto, c'è che te prendi musica, dico, e poi tac, sento, tac, sto scendendo giù perché si è fatto già tardi, cazzo, e gli dite cos'è? E mi ha detto che era verso le 3:30, ma chi su che io ho già pensato, chi su che ha già pensato, compreso? Può essere, non lo so. Magari è talmente debole che prende i segnali così. Magari arrivi in pieno. Però gli ho fatto una domanda, ma ecco, ne avevo detto, no, ecco. Perché in quel momento... no, non ne uso mai, capite? Sì, vabbè, non ti preoccupando, non è niente di cosa, anzi ha detto che hai per i piatti, solo che magari devi indicare che cosa di personale io intendo, quindi tu dati pure far sì. Ah, la cosa personale non le dico una parte. Mi comprende, non lo sa come te. Io qui non ho venuta di personale, con le personali si dicono al telefonino. Verticale. Ma io qui a Bufunemo ti sono gattati. Non posso. Ma c'è bello ogni tanto animare, no? Ma in genere io l'ecco non lo uso questo contratto. Cappagallo. Casa. Quando vado già, già bello. Ehi, ehi, tu. Mi sono contro un mendico. Ti saluto, ti auguro un lavoro per domani. E avevo tutto a nanna. Ciao, ciao. Buonanotte già, dai. Anch'io, dai, mi ritiro, ciao, ciao, buonanotte. Ciao, non ti riposo, ti ciao.